confidando dell'arrivo del secondo relatore, il professor Ferraioli, intanto iniziamo, forti della presenza dell'altro relatore, Francesco Riccobono, e non contando troppo sul mio intervento in materia, perché non sono competente in materia, ma come succede in questa bella scuola per la buona politica, c'è una rotazione di coordinamento che non sempre coglie i competenti No, non sono un giurista, sono uno storico. Quindi. Allora, però farò un piccolo sforzo per dare un piccolo contributo anche io. Intanto ricordandovi che siamo arrivati al quarto appuntamento della Scuola per la Buona Politica e, come sapete, dedicata alle letture politiche del primo Novecento. Appuntamento importante quello di oggi, dopo altri altrettanto importanti, naturalmente dedicato ad Hans Kelsen, una personalità di primissimo piano del diritto del pensiero democratico contemporaneo. C'è una definizione di Stefano Rodotà di Kelsen, lo chiama il gran sacerdote della liberal democrazia, proprio nell'introduzione del Principe senza scettro di Lelio Basso, fa riferimento agli autori che Lelio Basso cita, un pantheon, diciamo, di riferimenti culturali e intellettuali di Lelio Basso, tra cui è compreso anche Kelsen, su cui farò un piccolo cenno. Come sapete, oggi affronteremo questa grande figura attraverso, in primo luogo, a partire, diciamo, da uno dei suoi lavori più importanti, dei suoi libri, testi più importanti, la dottrina pura del diritto, un classico, direi della cultura giuridica, ma già questa espressione cultura giuridica forse potrebbe essere rigettata dallo stesso Kelsen. In ogni caso, la dottrina pura del diritto, pubblicato nel 1934 e poi riveduto e ampliato nel 1960, ma qui mi espongo chiaramente alle correzioni di Francesco Riccobono. Qualche coordinata biografica, giusto per ricollocare Kelsen nel contesto storico della sua vita. Una figura di punta di quella generazione di intellettuali mitteleuropei che ha lasciato un segno indelebile nella cultura europea, direi anche euroamericana del Novecento, nato a Praga nel 1881, si forma però nella Vienna, e come Basso sottolineava, nella Vienna dell'austromarxismo. Quindi si forma lì dove si laurea nel 1905, anche questo è la sua tesi di laurea, mi piace ricordarlo, sull'idea di Stato, o sul rilievo, diciamo, sugli aspetti costituzionali in Dante Alighieri. Nel 1905 si laurea. Prende l'abilitazione e insegnerà proprio a Vienna diritto pubblico e filosofia del diritto, uno dei primi luoghi dei tanti dove lui insegnerà. Passaggio chiave in Austria, nella Repubblica Austriaca, e la sua collaborazione all'elaborazione della legge costituzionale federale del 1920, e a lui in modo particolare si deve l'istituzione della Corte di Giustizia Costituzionale, la prima Corte Costituzionale che della storia, quindi, a cui lui era particolarmente legato, appunto il custode delle leggi, di cui fu anche giudice dal 1921 fino allo scioglimento della Corte di Giustizia Costituzionale austriaca ad opera del Partito Cristiano Sociale nel 29, e allora lui anche per questo motivo abbandonerà l'Austria, le cronache dicono indignato, abbandonerà l'Austria e accetterà l'incarico dell'insegnamento di diritto internazionale in Germania all'Università di Colonia. Il periodo lo conosciamo, Kelsen è ebreo, nel 1933 viene destituito da quel ruolo, dall'insegnamento, e si recherà a Ginevra, dove insegnerà tra il 1933 e il 1940, insegnerà a Ginevra, insegnerà e tornerà anche nel luogo di nascita, a Praga. a insegnare. A Praga subirà le contestazioni violente da parte dei nazisti, insomma motivi che si cumulano in una storia comune a altri intellettuali dell'epoca, lo indurranno infine a trasferirsi negli Stati Uniti, dove dal 1941 vivrà fino alla fine dei suoi giorni, nel 1973, insegnando prima ad Harvard e poi per lungo tempo a Berkeley, dove credo poi rimarrà a vivere. La bibliografia di Kelsen è imponente, a me largamente sconosciuta, ma comunque, oltre alla dottrina pura del diritto, che è il punto di partenza del nostro ragionamento, cito così pro forma del 20 L'essenza e il valore della democrazia, un testo caro proprio a Lelio Basso, poi ampliato nel 29, la dottrina generale dello Stato del 1925, la teoria generale del diritto dello Stato che è del 45 e i principi di diritto internazionale del 1952. Prima di lasciare la parola in questo caso al relatore, faccio proprio un cenno soltanto degli ambiti su cui Kelsen rappresenta un peso forte nei riferimenti culturali, giuridici e politici di Lelio Basso. In questa sede, diciamo, credo sia opportuno, in fondo il nome di Kelsen in questa sede risuona anche per l'attenzione che a suo tempo gli riservò Lelio Basso. Solo ambiti di riflessione, un piccolo elenco. In primo luogo, Basso riprende la categoria kelseniana di Grundnorm, cioè di norma fondamentale, che lui applica proprio all'articolo 3 capoverso della Costituzione di cui era stato il principale ispiratore, il secondo comma dell'articolo 3. Naturalmente un altro concetto di Kelsen è molto presente a Lelio Basso è quello di Partejenstaat. Tedesco non è la mia lingua, stato di partiti, cioè come espressione della vita democratica nella dialettica dei partiti. Questo è un riferimento anche all'articolo 49, l'altro articolo che Lelio Basso, di cui sarà ispiratore Lelio Basso, quello appunto sul partito politico. E questo è per Basso il passaggio, seguendo Kelsen, il passaggio dalla libertà autonomia alla libertà partecipazione. Più in generale, dell'analisi kelseniana dell'idea di democrazia come sintesi di libertà ed eguaglianza, Basso trova conferma e sostegno alle sue idee sulla concreta nozione di sovranità popolare. Diciamo, riprende spesso nella sua concezione della sovranità popolare il dettato di Kelsen. Basso considerava Kelsen il maestro del costituzionalismo democratico e il massimo giurista occidentale. Quindi il tema della sovranità popolare. Dentro la sovranità popolare, Basso in particolare riprende da Kelsen la centralità della dialettica maggioranza-minoranza. Questo è un tema proprio come espressione della sovranità popolare e dà rilievo costituzionale proprio all'opposizione, l'importanza di dare all'opposizione un rilievo costituzionale. Contro, diciamo, le dittature della democrazia, della maggioranza. Un altro elemento su cui trova sostegno in Kelsen Basso è nella difesa molto convinta del significato democratico del sistema elettorale proporzionale. Basso è un proporzionalista molto convinto e su questo trova sostegno nel pensiero di Kelsen. Meno affine a Kelsen, Basso, per quanto riguarda, direi in generale, il relativismo etico di Kelsen ed in particolare, naturalmente, la critica che Kelsen faceva invece dell'approccio marxista al diritto e alla concezione dello Stato. In questo si entrava nell'analisi un po' filologica che Basso faceva di Marx e non si riconosceva nella interpretazione di Kelsen del concetto di ideologia in Marx, che lui non riconosceva ben interpretato da Kelsen, e quindi da questo punto di vista rigettava, come dire, le critiche, sempre in maniera molto rispettosa, diciamo, le critiche che Kelsen proponeva. poneva nei confronti della cultura marxista. E, io mi sono già allargato, diciamo, per la competenza che ho in materia e quindi passo senz'altro la parola al relatore che presento rapidamente, Francesco Riccobono, già direttore del Dipartimento di Scienze dello Stato dell'Università di Napoli Federico II, insegna filosofia del diritto alla stessa università e qua in questa sede ricordo che è membro del comitato direttivo della rivista Parole Chiave, che è una rivista strettamente legata alla Fondazione Basso e che è partecipe della vita culturale della Fondazione Basso. Quindi la parola a Francesco, grazie. Ringrazio per avermi invitato a parlare in questa sede che, per la mia lunga frequentazione di Parole Chiave, la Fondazione Basso è un po' un luogo importante, insomma, della mia vita, non solo di studioso. E grazie soprattutto di avermi invitato a parlare di Kelsen, autore a cui ho dedicato molto tempo della mia vita di studioso, affascinato dalla poliedricità di questo signore. Ha fatto bene Giancarlo a partire dalle note biografiche, perché le note biografiche di Kelsen sono significative per illuminare il suo pensiero. Nasce nell'81, muore nel 73, quindi un periodo lunghissimo di vita e di produzione. E soprattutto, saluto Luigi Ferraioli e contemporaneamente dico che ci siamo un attimo divisi il lavoro. A me tocca un po' la parte di spiegare la persona e il pensiero, insomma, in maniera molto didascalica, mentre invece Luigi muoverà degli appunti critici, metterà in luce quelle che sono, come è scritto in un suo testo, le aporie del pensiero kelseniano. Allora, dicevo, muore nel 73, moltissime opere, però indubbiamente la parte più importante dei suoi studi è quella che vi è tra gli anni 20 e il 35, diciamo un po' in questo modo. Là il suo pensiero raggiunge davvero la sua presentazione migliore. In realtà la sua esce nel panorama europeo nel 1911, che già nel campo con un'opera che si intitola Problemi fondamentali della dottrina del diritto dello Stato, svolti a partire dalla dottrina della proposizione giuridica, titolo lunghissimo, ma già in questo titolo è immessa una rivoluzione e un attacco fortissimo a tutta la tradizione della scienza giuridica ottocentesca, per vari motivi. Il primo motivo è che non si parla di diritto privato. La scienza del diritto era soprattutto nell'Ottocento scienza del diritto privato, perché il diritto pubblico era interpretato come il luogo dell'arbitrio, il luogo dove interveniva l'arbitrio del legislatore e dove non vi era possibilità di costruzione logica degli istituti come invece vi era nel diritto privato. Con Kelsen nel 1911 si spiega che la scienza del diritto, la teoria del diritto, per essere tale, deve essere dottrina del diritto dello Stato, ovvero Staatsrecht è equivalente di öffentliches Recht in tedesco. Diritto dello Stato è diritto pubblico, cioè non si può capire il diritto se non si parte dal diritto pubblico e si sottomette agli istituti del diritto pubblico, agli istituti del diritto privato, cioè gli istituti proprietari. Ed è già questa una visione, come dire, per i tempi innovatrice. In più, già da quel titolo dell'opera del 1911 si intravede una cosa, un nuovo statuto della norma giuridica. L'Ottocento vive con un concetto di norma giuridica come comando, come imperativo. Tu devi fare o non fare qualcosa. A questo schema della norma imperativa poteva essere aggiunta, ma solo accidentalmente, la valenza sanzionatoria della norma giuridica. La sanzione non era un elemento essenziale della norma giuridica, era un elemento eventuale. Elemento essenziale della norma giuridica era, per la teoria ottocentesca, soprattutto l'imperativo. Kelsen non parla di norma giuridica, perché intende questo termine, norma giuridica, come norma imperativa. Intende invece norma giuridica, almeno nelle sue prime opere, come rechtssatz, cioè letteralmente enunciato giuridico, proposizione giuridica. La norma giuridica non è un imperativo, è una proposizione giuridica. Dirà più precisamente che questa norma giuridica sarà un giudizio ipotetico del tipo se A deve essere B. Questa visione, che nasce nel 1911, contraddistinguerà tutta una prima fase del pensiero kelseniano, che avrà il suo punto di arrivo nella dottrina pura del diritto del 1934, che è tradotta in italiano come lineamenti di dottrina pura del diritto. In quell'opera, lineamenti di dottrina pura del diritto, vi è la summa di questo pensiero kelseniano sulla norma giuridica. Che vuol dire che la norma è giudizio ipotetico? Vuol dire la formula se A deve essere B si spiega in questo modo: A è l'illecito, B è la sanzione, deve essere questo verbo sollen che dà la specifica natura del diritto e la specifica natura di alcuni comparti del mondo sociale, che non è retto dal principio di causalità, causa-effetto, ma dove vivono altri principi, soprattutto il principio di imputazione, cioè un principio che ammette il fatto, ammette la contrarietà al suo interno. Se noi prendiamo il principio di causalità, se la pera, reciso il picciolo, non cade dall'albero, la legge di gravità fallisce, non è più. Nella norma giuridica, se non viene irrogata la sanzione in un determinato illecito, o perché sfugge, o per tanti motivi, quella norma continuerà ad essere valida. Ecco, quindi non è leggibile in termini di causalità, perché c'è la possibilità della trasgressione all'interno della norma giuridica. Questa osservazione è un'osservazione che ha un significato politico fortissimo, poiché il pensiero ottocentesco considera l'illecito come un momento della patologia del diritto. Nel campo del diritto, quelli che sono i discorsi sull'apparato della forza, sugli apparati repressivi, sullo stesso discorso della sanzione, vengono posti in secondo piano, perché si vuole invece sottolineare il dato etico del diritto, il lato etico del diritto, cioè il fatto che attraverso il diritto si compia un perfezionamento etico e morale della società. Da questo punto di vista la trasgressione è anche una violazione di un obbligo morale, secondo la dottrina ottocentesca, e sul reo ricadrà una riprovazione morale generale. È una visione moralista, indubbiamente, del diritto, ed è una visione che non consente di mettere in luce gli aspetti conflittuali del sociale, punto primo, e gli aspetti repressivi degli apparati giuridici e dello Stato, e statuali, che infatti rimangono in ombra. Qui invece, in questa denominazione, abbiamo l'illecito che diventa fisiologia dell'esperienza giuridica, e se non ci sono le trasgressioni non ci sarebbe neanche bisogno del diritto, e questa fisiologia del fenomeno giuridico si basa sulla sanzione. Che vuol dire? Vuol dire che non esiste un illecito in sé, non vi sono degli atti e dei fatti che girano per il contesto sociale dicendo io sono un illecito, non c'è un'evidenza fattuale di quello che è illecito e quindi non giuridico. L'illecito vuol dire semplicemente, da un punto di vista tecnico, che a una determinata fattispecie viene collegata una sanzione. È la sanzione che fa l'illecito. Non è un comportamento in sé riprovevole che costituisce l'illecito. Vedete, da questo punto di vista, quindi vengono a cadere tutti i legami tra diritto e moralità. E il diritto appare come? Come una tecnica di organizzazione sociale che riguarda l'uso della forza. Vi è una bellissima frase di Kelsen in un commentario all'articolo sull'eguaglianza della Costituzione di Weimar, in cui dice: ma guardando il diritto, se strappiamo il velo delle ideologie che appunto abbelliscono il fenomeno giuridico come momento etico, momento di costruzione sociale e via dicendo, se squarciamo questo velo e non chiudiamo gli occhi, saremo pietrificati dallo sguardo della gorgone del potere. Saremo pietrificati dallo sguardo della gorgone del potere, cioè vi è il potere dietro il diritto. Non vi è nessun altro discorso edificante. Vi è il potere con tutti i suoi apparati repressivi. L'ideologia dominante, diremo l'ideologia della società borghese, ha coperto questo dato repressivo, fondamentalmente repressivo, dell'organizzazione giuridica. Ma perché? Perché chiaramente non vuole riconoscere l'esistenza di un momento conflittuale nella società. La visione più comune nel pensiero giuridico dell'Ottocento è l'organicismo giuridico. La società è come l'organismo. Vale il monologo, l'apologo di Menenio Agrippa. Non è immaginabile il conflitto. Tutti devono fare la loro parte. E il diritto è la chiave etica che ci dice qual è la nostra parte. Invece, nella visione kelseniana, il discorso si rovescia e abbiamo un mettere a nudo gli aspetti di potere che sono dietro al diritto. Una visione di questo genere, così disincantante, piena di disincanto, piena di lotte alle ideologie, senz'altro non doveva raccogliere il beneplacito tanto dei benpensanti quanto dei giuristi tradizionali, quanto di coloro che avevano dietro un pensiero politico strutturato in maniera tale per cui il diritto doveva in certo qual modo rispondere a dei criteri predati. In questa visione non vi è spazio per una teoria giusnaturalista, cioè per una teoria che vede il diritto e le norme giuridiche come reperibili in natura, in certo qual modo. È nella natura che noi possiamo raggiungere attraverso la ragione o riferendoci alla volontà divina, la tradizione teologica, è dalla natura che noi reperiamo i modelli di comportamento. Qui no, qui qualsiasi modello di comportamento può diventare diritto. E la chiave perché un determinato modello, un determinato comportamento diventi diritto è l'irrogazione della sanzione in caso di illecito. Semplicemente questo. Semplicemente questo. Vi dicevo, questa visione fu molto contrastata. Fu molto contrastata e Kelsen fu oggetto di critiche di ogni tipo. Di critiche di ogni tipo, intanto intanto dal pensiero giuridico tradizionale che vedeva sconfessato il dogma imperativista. E poi perché questo discorso del rapporto tra illecito e sanzione viene svolto da Kelsen in chiave antivolontarista. Uno dei dogmi che sottintendeva il discorso della norma imperativa, della norma comando, era quello che il diritto, la norma giuridica, fosse un atto di volontà, emanato da un normatore verso un destinatario. Ovvero, il diritto viveva in una situazione psicofisica di rapporto destinatore-destinatario. Questo rapporto psicofisico è del tutto smantellato dalla visione se A deve essere B. Perché? Perché questa è una visione neutra, non indica ciò che il soggetto vuole fare. La sanzione si può irrogare anche nel momento in cui il soggetto non viene a conoscenza di quelle che sono le leggi di un determinato Stato, di un determinato ordinamento. E quindi, se è al di fuori della conoscenza, sarà a maggior ragione al di fuori anche della volontà. Non si può volere ciò che non si conosce, mi sembra evidente. Eppure a queste situazioni, no? Ignorantia iuris non excusat, a queste situazioni viene comunque applicata una norma giuridica e una sanzione in caso di trasgressione. Possiamo dire che da questo punto di vista il discorso della norma come giudizio ipotetico indica proprio un superamento degli orizzonti della volontà all'interno del diritto. Il diritto non si spiega con gli atti di volontà, né del legislatore né del destinatario, perché il diritto vive nell'applicazione, non nell'obbedienza. La categoria principale del fenomeno giuridico non è l'obbedienza da parte dei destinatari, ma è l'applicazione. L'applicazione di che cosa? Della sanzione da parte di un organo in caso di un illecito. Allora, però, se è così, ci sono delle ripercussioni importanti. Chi è il destinatario della norma? Non è più il destinatario comune. Se il discorso centrale è quello dell'applicazione e non più dell'obbedienza al diritto, il destinatario comune non entra in questo circuito. E infatti molti autori contestano a Kelsen il fatto che questo discorso genera una dottrina del diritto e disegna un diritto limitato ad un destinatario specializzato, gli organi giuridici. Il diritto non uscirebbe in sostanza dall'ambito degli organi giuridici di applicazione. Sembra una situazione, come dire, eccessiva, però anche nell'Ottocento un autore, Rudolf von Jering, per primo non aveva sviluppato questa teoria in questo modo, ma aveva posto un dubbio, che cioè in sostanza i destinatari della norma giuridica erano gli organi dello Stato e non i singoli cittadini. Questa visione oggi potrebbe incontrare varie critiche, l'ha incontrato. Oggi si pensa ad una norma giuridica che rientra nel processo di motivazione, diventando una specie di ragione per la condotta dei cittadini. Però all'epoca in cui fu scritta, e probabilmente anche oggi, questo modo di presentare il diritto rende conto di una cosa, rende conto della separazione che vi è tra cittadini e organi dello Stato, e disegna una serie di categorie giuridiche comprensibili e spendibili solo all'interno degli operatori giuridici, praticamente non raggiungibili da parte del cittadino comune. E questo non è detto con l'intenzione di santificare questa conoscenza specializzata del diritto, ma è detto proprio con l'intenzione di far vedere l'arcano della categoria giuridica, di come dietro alla categoria giuridica vi siano tutta una serie di meccanismi che in realtà non solo vengono ignorati dal cittadino comune, ma che l'ideologia dominante tende ad occultare, perché non farebbero altro che rafforzare una immagine di potere della situazione statuale, dell'ordinamento statuale. Questo non è neanche questo un concetto completamente nuovo. Già Jelinek parlava dello Stato come un rapporto tra dominanti e dominati. Guardate che non è semplice ammettere che ci sia un rapporto dominanti-dominati all'interno del fenomeno statuale. Questi autori lo mettono in luce, scrivono una teoria delle pagine che possono essere dette di realismo giuridico, appunto per questa visione. Ora, la dottrina pura del diritto è questa opera del 34, dove vi è questa visione, questa teoria della norma giuridica. Altro momento importante che vi è in questo testo è il riassumere e il presentare in forma, in forma emblematica, la teoria dell'ordinamento giuridico. Le singole norme non vanno, ognuna per conto suo, le singole norme sono raccolte in un insieme. Si raccolgono insieme in norme sovraordinate e subordinate. Questo insieme di norme sovraordinate e subordinate è l'ordinamento giuridico. Alla fine dell'Ottocento e Novecento si parlava di ordinamento giuridico, ma si parlava recependo l'idea di sistema. L'ordinamento giuridico era un sistema. Labant, uno dei padri della giuspublicistica tedesca, parla appunto di un diritto che è un sistema logico. Il metodo per la produzione e il perfezionamento del diritto è il metodo logico-matematico. Le conseguenze di questa visione, ordinamento uguale sistema, sono anche di ordine pratico. Essendo un sistema regolato da un'anima logico-matematica, noi che cosa avremo? Avremo che questo sistema è completo, cioè è estendibile a piacimento a tutte le fattispecie sociali, anche a quelle che non sono normate, anche a quelle che non sono disciplinate. L'ordinamento è completo, l'ordinamento è coerente, ha dentro di sé quelli che sono gli strumenti per evitare contrasti tra norme. L'ordinamento vive produce certezza del diritto. Certezza del diritto vuol dire appunto la prevedibilità della qualificazione giuridica di ogni comportamento e, attenzione, questa certezza conoscitiva ha come pendant la certezza sociale. In tedesco certezza e sicurezza hanno lo stesso termine. Certezza del diritto è Sicherheit, e cioè è sicurezza. Questa certezza produce sicurezza sociale e quindi fare vedere un ordinamento giuridico che funzioni in questo modo vuol dire in certo qual modo produrre sicurezza nella società. Non ci possiamo aspettare sorprese. E qui abbiamo invece la visione kelseniana fortemente critica di questi dei tre dogmi, delle tre C dell'ordinamento giuridico: certezza, coerenza, completezza. L'ordinamento giuridico vive solo grazie a un principio di unità, e questa unità poi sarà la norma fondamentale, a garantirla è un altro discorso. Ma l'ordinamento giuridico per Kelsen non produce certezza, non ha completezza, non ha bisogno di coerenza. Al proprio interno non esistono norme nulle. Una norma difforme dalla norma superiore, una legge che entra in contraddizione col dettato costituzionale, non è per Kelsen di per sé nulla. È semplicemente annullabile. Cioè può far innestare un procedimento di invalidazione costituzionale della norma, ma di per sé continuerà ad avere effetto giuridico finché non ci saranno pronunce della Corte Costituzionale in quella direzione. La lacuna. Perché noi dobbiamo immaginare che per forza l'ordinamento giuridico deve offrire la soluzione di ogni problema? In realtà, se vi è una lacuna, vuol dire che una determinata fattispecie non è stata normata, non è stata disciplinata, e quindi, a rigor di logica, dovremmo essere di fronte a una situazione nella quale dovrebbe vigere un libero comportamento dei consociati. Manca una legislazione. Appunto, Kelsen in questo modo sostiene che semplicemente la lacuna è una differenza tra il diritto quale è e il diritto quale vorremmo che sia, quale vorremmo che fosse. È la proiezione di un nostro desiderio a che un determinato fatto sia disciplinato, e magari sia disciplinato in un determinato modo, senza fermarci all'evidenza che quel fatto non è disciplinato. Chiaramente, completezza e coerenza, se cadono, non sarà più possibile parlare di certezza all'interno dell'ordinamento giuridico. La norma superiore non vi guida nella corretta soluzione del caso. Non esiste una corretta soluzione del caso. La norma superiore, nello schema dell'ordinamento giuridico kelseniano, che è uno schema di dinamico di produzione di norme, la norma superiore fissa soltanto le condizioni generali di produzione della norma inferiore, dando così potere, delegando un organo alla posizione della norma inferiore. Questa delegazione è una vera e propria delegazione di potere, che investe l'organo delegato di una forza creativa del diritto. Il giudice, le amministrazioni, la stessa legislazione verso la Costituzione detengono un potere creativo del diritto in senso forte. Per giurisdizione e amministrazione una discrezionalità assoluta. La norma superiore ci dà solo la possibilità di leggere una serie di possibilità di significato e di possibilità di attuazione, ma poi sarà l'organo dell'applicazione a decidere quale di queste possibilità attuare. Vedete, quindi non vi è possibilità, qua è molto vicina alla cosiddetta scuola del diritto libero, non vi è nessuna possibilità di predeterminare il risultato di un giudizio e soprattutto non vi è un risultato certo, un unico esito corretto dei procedimenti giuridici. Tutti i procedimenti giuridici possono essere possono verificarsi, tutti i risultati possono darsi, perché è uno schema generalissimo quello che pone la norma superiore. Questo non vuol dire dare ai giuristi e agli operatori giuridici una carta bianca, cioè non vuol dire schierarsi per un potere forte, se vogliamo, delle istanze giurisdizionali e amministrative. Vuol dire che in realtà nella posizione di una sentenza, nella posizione di un atto amministrativo, l'organo delegato ha una responsabilità politica e morale piena. Lo schema è uno schema formale. Da un punto di vista giuridico noi possiamo avere solo schemi formali. Così come non vi era un contenuto tipico del diritto, ma ogni contenuto poteva entrare nella forma del giudizio ipotetico, così anche lo schema formale può essere riempito di qualsiasi contenuto, però è un soggetto in carne ed ossa, responsabile politicamente e moralmente delle proprie azioni. Questo discorso che l'estremo formalismo del diritto sia in collegamento stretto con una responsabilizzazione degli organi di posizione, soprattutto del giudice, viene messo viene allontanato praticamente da quelli che sono i critici della visione kelseniana. Anche alla fine della Seconda Guerra Mondiale, no, con il processo in Norimberga, Kelsen ebreo, aveva detto Monina nel 1936, viene a Praga contestato dagli studenti nazisti, è costretto a partire in America, viene visto dai regimi nazisti e fascisti come la quintessenza del male. Io vi vorrei leggere solo un passo dello Staatslexikon di Mayer, questa Bibbia, possiamo dire, del pensiero tedesco. Nel 1939, nello Staatslexikon di Mayer, c'è scritto: Hans Kelsen, ebreo, radicale rappresentante della dottrina pura del diritto, che è la tipica espressione dello spirito disfattista ebreo nel periodo del dopoguerra nel campo della dottrina del diritto. Questa è la fotografia nazista di Kelsen, una fotografia per cui fin negli anni 60 la possibilità di un suo ritorno viennese fu contestato da gruppi oltranzisti di ispirazione nazista. Quindi è visto, identificato come il diavolo in persona. Quindi non è in dubbio il quadro democratico di riferimento in cui immettere Hans Kelsen. Ecco, però anche in questo quadro non si capì bene che il suo disvelare i meccanismi formali del diritto non aveva un'intenzione di giustificazione di ogni decisione, ma al contrario portava a una piena responsabilizzazione degli organi dell'applicazione. Nel processo in Norimberga molto si parlò dei crimini contro la pace. Kelsen scrive in un articolo di quegli anni, del 1946, che il discorso che viene fatto dai giudici di Norimberga sui crimini verso la pace è un discorso che mostra in che cosa consista l'ipocrisia, in sostanza, del pensiero giuridico. I giudici di Norimberga hanno bisogno di identificare un precedente che era, fino a finire al patto Brian-Kellogg, no? Per identificare questa, la punibilità di questa fattispecie dei crimini contro la pace. In realtà, dice Kelsen, non vi è la possibilità, era proprio completamente distante da quella che era la mentalità dell'epoca, immaginare dei crimini contro la pace. Ciò vuol dire che allora non dobbiamo punire i crimini contro la pace dei gerarchi nazisti? No, li dobbiamo punire, perché vi è una responsabilità politica e morale dei gerarchi nazisti verso la quale i giudici devono operare una loro responsabilità politica e morale nell'assumersi una decisione di condanna, una sentenza di condanna. Vedete quindi questo svelare, questo disincanto continuo, in sostanza funziona nella direzione di smantellare ogni apparato giuridico di giustificazione e rimandare in continuazione a quella che è la responsabilità piena dei soggetti in azione all'interno dell'ordinamento giuridico. Due parole sulla democrazia. Kelsen è un autore che primo von Wesentwerte della democrazia, essenza il valore della democrazia, la prima edizione degli anni 20, la seconda del 29, fino al 55 mi sembra scrive saggi sulla democrazia molto corposi, Foundation of Democracy. Come intende la democrazia? Come un pensatore che vive nella lotta alle ideologie, vive nel disincanto, intende la democrazia. Questo è importante perché la intende in un modo dal quale noi in certo qual modo non ci siamo più staccati. Cioè la democrazia come un particolare procedimento giuridico. È una forma particolare di produzione dell'ordinamento giuridico, la democrazia. Cioè quella forma di produzione in cui i destinatari, in sostanza, attraverso la rappresentanza, danno leggi a loro stessi. La democrazia vive per Kelsen soprattutto nella centralità del concetto di libertà. Il concetto di eguaglianza va letto, e questo soprattutto nel principio maggioritario, in funzione del concetto di libertà. Nel principio di maggioranza, il fatto che vige un'eguaglianza tra i votanti non è perché tutti siamo uguali, cioè ideologia dell'eguaglianza, ma è perché in questo modo riesce a essere libero il maggior numero di persone, perché ha votato ciò che vuole. Vuole dire una cosa? Sì. E quindi la idea di eguaglianza del principio maggioritario va riletta come funzione del concetto di libertà. Quali sono le basi ideali del pensiero democratico kelseniano? Vi sarete resi conto, parlare dottrina pura del diritto, vi era la lontananza da qualsiasi giudizio di valore. Pura vuol dire che una dottrina del diritto, per essere scientifica, deve mettere da parte i giudizi di valore. Non deve descrivere il proprio oggetto, senza contaminazioni ideologiche. Ciò nasconde una visione del giudizio di valore e dei valori come momenti soggettivi, emozionali, su cui non è possibile fare nessun discorso di razionalizzazione. Nella dottrina pura del diritto si dice chiaramente la giustizia, e la giustizia è un valore chiaramente, è un ideale irrazionale. Non è possibile razionalizzare l'idea di giustizia. Si va a un fondo personale, irrazionale, emotivo, soggettivo, dove non vi è possibilità di mediazioni razionali, in certo qual modo. Le motivazioni dei nostri valori ultimi non sono rendibili. Ci sono. Sono argomentabili, ma, come dire, è un'argomentazione debole. È un'argomentazione che segue l'assunzione di quel valore. Dà per scontata l'assunzione di quel valore. Il diritto non ha a che fare con la giustizia. E infatti anche la visione formalistica del diritto vuol dire che qualsiasi contenuto, qualsiasi sia l'essenza morale di questo contenuto, anche i più perfidi, possiamo dire, bene, sono contenuti che possono diventare giuridici. È una visione quindi, questa kelseniana, che si incentra sul relativismo dei valori. Non è possibile fare un discorso di verità per i valori. Poiché i valori sono sempre, come dire, contestabili da un punto di vista opposto, in una dimensione razionale. E allora che cosa fare? Rendersi conto di questa debolezza degli assunti dei valori che ispirano le azioni dei soggetti sociali e che possono portare a situazioni realmente conflittuali. E immaginare una istituzione, una forma di governo, una istituzione politica dove in certo qual modo ognuno possa perseguire il proprio convincimento di valore senza cantianamente ledere la libertà degli altri. Questa situazione è la democrazia. La democrazia discende direttamente dal relativismo dei valori e da quella condizione di tolleranza, condizione pratica necessaria per una convivenza civile dove possano coesistere individui animati da orizzonti di valore completamente diverso. Relativismo dei valori, tolleranza, democrazia come risposta istituzionale. Senza tolleranza non vi può essere democrazia. Attenzione, anche qui, questo relativismo dei valori non è un relativismo nichilistico. Non vuol dire che ognuno può fare tutto quello che gli pare e piace. No, è semplicemente alla condizione del rispetto del valore dell'altro. Se si infrange questa condizione del rispetto del valore dell'altro, allora non si può richiedere rispetto per la propria posizione, non si può chiedere tolleranza, L'intollerante non può chiedere tolleranza. È un po' lo stesso giro logico di cui parlavamo ieri con Luigi, su quello che attraverso uno Stato democratico non si può arrivare a una dittatura. Seguendo i percorsi della tolleranza e del relativismo etico, non si può arrivare a una giustificazione dell'intollerante. Sono meccanismi intimamente contraddittori. Bene, questa visione della democrazia ha però vive sempre in questo territorio dello svelamento di finzioni, svelamento di meccanismi ideologici. La democrazia è questa, però attenzione a che vi sia effettivamente una realizzazione degli ideali democratici. Perché vi sia questa realizzazione bisogna stare attenti a due punti. Il primo punto, la rappresentanza, la finzione della rappresentanza politica. La rappresentanza politica, per Kelsen, non è immaginabile come un rapporto di volontà tra votante e votato, tra elettore ed eletto. E qua riprende quello che abbiamo detto all'inizio, quello che era lo schema antivolontaristico del diritto. La rappresentanza indica semplicemente che le conseguenze della decisione di un soggetto vengono a ricadere su un altro soggetto. Questo è lo schema della rappresentanza privatistica, di diritto privato. Le decisioni del tutore vengono a ricadere sul pupillo. Le decisioni dell'eletto vengono a ricadere sull'elettore, senza che vi sia un rapporto di volontà tra questi due soggetti. Ovvero sia, la rappresentanza è svelata semplicemente come un rapporto normativo. Come un rapporto normativo. E la rappresentanza pubblicistica, la rappresentazione in tedesco, viene quindi dipinta nelle vesti della rappresentanza privatistica, la Stellvertretung. E questa è una stranezza del pensiero kelseniano, che aveva battuto molto sui lati pubblicistici e poi invece nell'ambito della rappresentanza ci ripropone anche a livello politico una immagine jus privatistica. La seconda considerazione che viene fatta è che la forma di attuazione della democrazia oggi, la più utilizzata, la più presente, è quella della democrazia parlamentare. Attenzione, perché secondo Kelsen in questa forma quelli che sono i discorsi di libertà vengono in certo qual modo limitati dal principio della divisione sociale del lavoro, cioè dall'esistenza di organi specializzati nella decisione, che di fatto mantengono dei livelli di lontananza, dei livelli di indipendenza dal corpo elettorale. E il corpo elettorale stesso va sottoposto a una medesima operazione di disincanto. Il popolo, non vi è nessun popolo. L'immaginare che vi sia un soggetto collettivo che agisce e vuole è opera di un errore della conoscenza, se volete, che duplica il proprio oggetto. l'azione è solo degli individui. Il popolo non è immaginabile come un soggetto collettivo. Il popolo è solo un rapporto normativo. Cioè nell'ordinamento dello Stato, durante le elezioni, vengono immaginati dei rapporti che fanno vedere un soggetto attivo delle elezioni. E questo sarebbe il popolo. Quindi impossibilità di fare riferimento a soggetti collettivi portatori dell'azione politica. Il soggetto collettivo in certo qual modo ritorna sempre nell'ambito di un rapporto normativo che lo spiega. E conseguentemente, come viene attaccato il popolo, viene attaccata l'idea di una sovranità popolare, perché è illusorio l'esistenza di un soggetto di questo tipo. Anzi, nella radiografia delle democrazie contemporanee noi vedremo tutto il contrario, cioè noi vedremo che la possibilità di azione dei cittadini si illumina solo, se volete, nel momento in cui sono chiamati alla partecipazione da parte dell'ordinamento giuridico. Bene, io avrei finito, mi rendo conto delle pecche di questo mio intervento, ho voluto toccare più punti possibili per fare in modo poi che si vedesse dove insiste la critica che oggi possiamo muovere al pensiero kelseniano. Grazie. Grazie Francesco, io passo subito la parola a Luigi Ferraglioli. Grazie. Questo no. Francesco Vicco Bono vi ha offerto una descrizione del pensiero di Kelsen, una descrizione a sua volta criticabile, nel senso che ci sono molti Kelsen e ho l'impressione che in molti passaggi Francesco abbia offerto di Kelsen alcuni lati peggiori. Kelsen è un pensatore complesso, soprattutto è vissuto molto a lungo. Uno dei temi più diffusi della riflessione su Kelsen è quello della periodizzazione del suo pensiero e della sua vita. Personalmente io ho distinto 4 Kelsen, e cioè 4 fasi del pensiero kelseniano, altri 3, ma insomma questo non ha poca importanza. Certamente l'ultimo Kelsen ha poco a che fare con il primo Kelsen, e cercherò di spiegare perché. Naturalmente io vorrei fare soprattutto una riflessione sul pensiero di Kelsen sulla democrazia, però visto che Francesco Ricco Bono ha illustrato gran parte della teoria del diritto, alcune precisazioni forse è opportuno farle, questa volta in senso critico. Dico subito che Kelsen è un simbolo della democrazia, del pensiero liberale, è stato per tutti noi e per molte generazioni precedenti alla nostra, e io spero anche successive alla nostra, un maestro, un riferimento essenziale del pensiero democratico, e del pensiero liberale, se non altro per i conflitti appunto che hanno caratterizzato la sua vita, a cominciare da quello con Carl Schmitt e poi con i nazisti, e è stato per l'appunto un modello di intellettuale democratico. E quindi sono ben lontano dal sottovalutare, diciamo, il peso e il ruolo che Kelsen ha avuto nella storia del pensiero democratico del Novecento e ovviamente della teoria del diritto. Personalmente, per me, Kelsen è stato l'autore di maggior riferimento, del quale più mi sono occupato. E tuttavia ci sono alcune tesi che a mio parere sono insostenibili, sono oggi insostenibili, a cominciare dalla tesi che fa del dover essere, mi pare che da qui sia partito Rocco Bono, la categoria centrale. È chiaro che essere e dover essere alludono a due livelli diversi del mondo, dell'universo, l'essere alla realtà empirica, ciò che accade, il dover essere a livello della prescrizione. Ma proprio per questo appartengono, a mio parere, non alla teoria del diritto queste categorie, ma sono semmai categorie filosofiche. Tanto è vero che il dover essere non è né una tesi, né un predicato, né un connettivo, né una tesi assertiva. Dover essere è una formula ellittica che può essere, diciamo, scomposta, a mio parere deve essere analiticamente scomposta, in due relazioni. La classica relazione, se A allora deve essere B, è una ellissi, una sintesi, che connette con una strana implicazione di dover essere due fatti, l'illecito e la sanzione. In realtà ciò che viene prodotto dall'illecito è l'obbligo di applicare la sanzione. La dimensione deontica è precisamente nella situazione giuridica prodotta dall'illecito, così come da qualsiasi altro atto giuridico, pensiamo ai contratti, che producono per l'appunto obbligazioni, diritti, situazioni giuridiche. Lo stesso vale, che so, per le sentenze, per i provvedimenti. Situazioni giuridiche è l'obbligo di applicare la sanzione, la cui attuazione consiste per l'appunto nell'applicazione della sanzione. E la tesi secondo cui la relazione di dover essere sarebbe in grado di dar conto di tutte le norme giuridiche ha costretto Kelsen, perché Kelsen è sempre stato fedele ad alcune tesi a mio parere infondate, durante le quattro fasi di sviluppo del suo pensiero, a fare della categoria del dover essere una categoria generale in grado di dar conto di tutte le norme giuridiche, facendo grandi salti mortali, ovviamente mortali, nel senso che non sono in grado di dar conto di gran parte delle norme giuridiche. Intanto le norme costitutive, ci sono alcune norme, per esempio le norme che attribuiscono la capacità giuridica alle persone al momento della nascita, o la capacità d'agire, che attribuiscono alle persone al momento della maggiore età la capacità di produrre atti negoziali, le norme di competenza, i diritti fondamentali, che non hanno la forma di norme ipotetiche, sono direttamente disposizioni di diritti in capo alle persone, ma anche norme più banali come il divieto di sosta, come il semaforo. Senso. Le norme diciamo che riflettono questa relazione sono quelle che io ho chiamato norme ipotetiche, e cioè norme che predispongono effetti giuridici, quali effetti per l'appunto di atti ipotizzati. Tutto il codice civile è una serie di norme ipotetiche, ma anche il codice penale si predispone la sanzione nel caso della commissione di un reato, si predispongono obblighi e determinati obblighi e diritti nel caso della commissione di una compravendita, di un mutuo, di un comodato, eccetera. Ma ci sono gran parte delle norme che non hanno questa struttura, hanno una struttura logica completamente differente, e non norme irrilevanti come per l'appunto i diritti fondamentali, le norme costitutive, eccetera. Perché insisto su questo punto? Perché è chiaro che la identificazione dell'illecito come presupposto della sanzione, in forza del quale non esistono illeciti senza la sanzione, così come l'idea che i diritti soggettivi esistono soltanto in quanto presupposti dei doveri ad essi corrispondenti e come presupposti di sanzioni nel caso della violazione di questi doveri, fa svolgere, in contrasto con l'idea della teoria pura, alla teoria di Kelsen delle funzioni legislative. Cioè Kelsen fa svolgere ai suoi concetti teorici delle funzioni normative. E quindi sostiene che, per esempio, diritti privi di sanzione non esistono. Illeciti privi di sanzione non sono illeciti. Per cui, per esempio, i diritti fondamentali, in assenza di attuazione, di assenza di garanzie, in assenza di tecniche idonee a far valere la sanzione in caso di loro in ottemperanza, e prima ancora idonee appunto ad essere considerati diritti soggettivi in quanto esiste un corrispondente dovere, non esisterebbero. E lo stesso vale per l'illecito. Il divieto della guerra, pur stabilito dalla Carta dell'ONU, Kelsen continua a sostenere questa tesi anche dopo il 45, il divieto della guerra non è un divieto, nel senso che la guerra non è un illecito se non c'è una sanzione, tanto che è costretto a identificare la guerra giusta, e cioè la risposta della guerra alla guerra, come l'unica possibile sanzione in grado di concepire la guerra come illecito e di tener fede a quelle che sono giustamente le ideologie democratiche di Kelsen. Pensiamo alla la pace attraverso i diritti. Kelsen è stato sicuramente uno degli esponenti maggiori, forse il maggiore, del pacifismo giuridico oltre che della democrazia, e per sostenere l'illicità della guerra ha dovuto ricorrere a questa strana tesi della guerra giusta come sanzione della... Mentre invece proprio una teoria formale consente di dire, senza nessun tipo di confusione fra diritto e morale, che un comportamento illecito sia vietato da una norma giuridica, punto. E consente anche di dire quel che Kelsen, ma anche Kelsen letto da Francesco, non consente di dire, che in caso di mancata attuazione di quella che è un'aspettativa giuridica, come sono i diritti fondamentali, di quello che è un principio normativo, come il divieto della guerra, dobbiamo criticare il diritto esistente in base al diritto medesimo, identificando in questa mancanza per l'appunto una lacuna che non ha a che fare con i nostri desideri, ma con l'inadempimento da parte del diritto medesimo delle sue promesse e dei suoi principi di solito costituzionali, comunque normativi. Per altro verso, una delle tesi, diciamo, più gravide di conseguenze negative, che Kelsen ha sostenuto anche in presenza delle costituzioni rigide del secondo dopoguerra, è l'identificazione di esistenza e validità. Proprio la sua concezione puramente formale della validità, in forza della quale le norme esistono solo se prodotte da chi è abilitato a produrre, quindi se formalmente valide, lo porta a ignorare la categoria dell'invalidità, della invalidità, in particolare dell'illegittimità costituzionale. E quindi a non comprendere, ma su questo tornerò dopo in maniera molto più di fondo a proposito della concezione della democrazia, a non comprendere l'innovazione radicale, la vera e propria rivoluzione che è avvenuta col costituzionalismo rigido del secondo dopoguerra. Dico questo, io ho vissuto molto negli anni 50-60 la, diciamo, recezione di Kelsen in Italia e il kelsenismo nella sua fase per così detta trionfante, a tal punto trionfante che anche un pensatore che per me è una specie di padre, sicuramente il mio maestro Norberto Bobbio, è stato praticamente un kelseniano fino alla fine. Identificazione di esistenza e validità. Non fino alla fine, perché mi ricordo che nelle ultime lettere che ci siamo scritti lui ha ammesso, secondo me, l'evidenza, e cioè la dissociazione prodotta dalle costituzioni rigide fra esistenza e validità delle leggi. Ma ricordo che quando nel 70 scrissi un saggio, tra l'altro in un libro in onore di Kelsen, in cui criticavo Kelsen e Bobbio per questa identificazione, lui rispose in maniera molto dura, nel senso che difese, connettendo, diversamente da Kelsen, o al pari di Kelsen, ma in maniera molto più radicale, questa identificazione con la tesi della avalutatività. Nel momento stesso in cui diciamo che nel diritto esistono norme illegittime, che nel diritto esistono norme illegittime sulla base del diritto medesimo, ovviamente imponiamo, implichiamo il dovere non solo dei giudici ma anche dei giuristi di criticare il diritto esistente e dunque di contraddire quel precetto di Bentham, obbedire al diritto e criticarlo dall'esterno. La critica può essere soltanto politica esterna ma non interna. E questo è un principio del metodo tecnico giuridico che ha pesato a lungo sulla nostra cultura, direi fino agli anni 80-90. È stato, diciamo, un peso che ha condizionato negativamente la cultura giuridica. Ma veniamo appunto alla concezione della democrazia. E qui voglio subito dire che Kelsen a me è sempre sembrato il principale teorico del secolo scorso della democrazia politica, della democrazia rappresentativa. Non il principale teorico della democrazia in quanto ha ignorato, ma su questo parlerò successivamente, la democrazia costituzionale. La democrazia costituzionale non fa parte del suo orizzonte. E Kelsen è un teorico dello Stato legislativo di diritto e non dello Stato costituzionale. Ed è abbastanza impressionante l'incomprensione per la democrazia costituzionale perché quanto più procedeva, si sviluppava a livello istituzionale la crescita della complessità degli ordinamenti con l'esistenza di più livelli normativi, in particolare costituzionali ma anche sovranazionali, tanto più Kelsen, teorico della struttura a gradi dell'ordinamento, al quale dobbiamo una delle acquisizioni teoriche di fondo anticipata dal suo allievo Merkel, e cioè la struttura a gradi dell'ordinamento e ovviamente il giudizio di incostituzionalità delle leggi, quanto più, diciamo, si sviluppava questo processo, tanto più Kelsen ha accentuato l'idea del carattere puramente dinamico del diritto, e cioè ha accentuato la, diciamo, rimozione della dimensione sostanziale, della dimensione statica, che è la base del giudizio di invalidità sostanziale delle leggi, della valutazione, della critica, quindi delle antinomie e delle lacune, fino alla tesi, a mio parere insensata, secondo cui la logica non si applica al diritto, secondo cui una sentenza, quale che sia, è comunque valida perché passa in giudicato, perché esistente, e confondendo un ovvio principio di certezza in forza del quale a un certo punto il procedimento giudiziario deve cessare con, diciamo, la validità giuridica, la validità logica in forza della quale non avrebbe senso criticare le sentenze invalide. Kelsen, tuttavia, è stato il principale teorico, a mio parere, della democrazia rappresentativa. A lui dobbiamo, lo diceva già Riccobono, il rifiuto dell'idea del popolo come macro soggetto dotato di volontà unitaria, l'idea della rappresentanza come una finzione, la critica dell'illusione metafisica dell'esistenza di un interesse generale comune a tutti e viceversa il riconoscimento che la società è il luogo di interessi, Kelsen li chiama apertamente conflitti di classe fra interessi contrapposti, il valore quindi del pluralismo e della tutela delle minoranze, e l'opzione filosofico-morale per il relativismo, anche se in effetti con un'accettazione che io non condivido, e cioè l'idea puramente emotivistica della giustizia o dei valori morali. C'è una discussione che si sta protraendo nel mondo della filosofia e del diritto da ormai decenni, che io trovo molto stucchevole, sul cosiddetto oggettivismo o non oggettivismo morale, dove si contrappongono due posizioni entrambe insensate. Da un lato l'idea che la morale sia una questione di preferenze del tutto immotivate, così come le preferenze gastronomiche, e dall'altro l'idea che viceversa esista un mondo oggettivo di valori che consenta di parlare di verità morale. E viceversa, dobbiamo ammettere che non è predicabile la verità se non di asserzioni, come quelle della logica, della matematica o quelle delle scienze empiriche o della storiografia, mentre abbiamo un vocabolario abbastanza ricco, qui Croce insegna, per parlare di giustizia, per parlare di bellezza, per parlare di bontà, a proposito dei giudizi etici, dei giudizi estetici, che richiedono tuttavia di essere argomentati razionalmente. E cioè il campo della politica e della morale è il campo privilegiato dell'argomentazione razionale, così come lo è anche la scienza empirica, non la logica evidentemente, in cui sono le assunzioni, i postulati che sono il prodotto di scelte, non certamente i teoremi, ma il campo privilegiato dell'argomentazione razionale è precisamente la morale e la politica. E possiamo quindi argomentare, fermo restando il pluralismo, perché a loro volta i sostenitori di valori opposti argomentano, sulla base evidentemente di premesse diverse. È chiaro che sarà difficile raggiungere un accordo con un razzista, però per chi non è razzista e condivide, supponiamo, le attuali politiche del governo attuale, è facile mostrare l'insostenibilità di queste politiche sulla base della condivisione, per esempio, dell'uguale dignità delle persone. Ebbene, questa del relativismo morale, tuttavia, sia pure con questa accentuazione, e questa tuttavia è un aspetto assolutamente secondario, per così dire dovuto alla polemica di Kelsen nei confronti dei cognitivisti, degli oggettivisti. Non è necessario arrivare a quella che qualcuno ha chiamato la grunk filosofia morale, cioè l'idea secondo cui sono come delle preferenze espresse da grugniti, l'idea secondo cui è il buono, è bene l'uguaglianza anziché la disuguaglianza. E purtroppo ci sono stati e ci sono, diciamo, sostenitori di queste tesi, che magari sono dei grandi liberali e democratici, tuttavia purtroppo nella filosofia morale, nella filosofia politica c'è di tutto, e c'è anche questo. Non c'è bisogno dell'emotivismo per contestare l'oggettivismo, che implica evidentemente l'intolleranza, perché non si può tollerare che 2 più 2 faccia 5. Non è tollerabile che un esame di storia, uno studente mi dica che la rivoluzione francese è avvenuta nel 1915, oppure che Carlo Marx è nato nel III secolo a.C. Cioè, si possono dire e discutere appunto anche le tesi storiografiche, le tesi, e quindi anche quello è il campo dell'argomentazione razionale. E tuttavia, essendo il campo della verità o falsità empirica, in assenza di prove non è tollerabile dire qualsiasi cosa, va bene? Mentre invece nel campo della morale, nel campo della politica, la giustificazione razionale è operabile a sostegno spesso di valori molto diversi. Del resto, le questioni etiche di cui, non so, pensiamo all'aborto, alla protezione assistita, ci sono tantissime questioni, l'eutanasia, su cui ci sono tesi diverse, e soltanto le religioni hanno la tendenza, è il vero cognitivismo etico, perché le verità sono rivelate, sono prodotte da, c'è forse un giuspositivismo etico prodotto dalla volontà divina, e quindi diciamo vere in quanto volute da Dio, ma certamente l'oggettivismo etico è incompatibile con la laicità e anche, e in questo c'ha ragione Kelsen, con il pluralismo democratico, che richiede per l'appunto il compromesso fra forze opposte, e che ha quindi come forma privilegiata, addirittura Kelsen parla dell'unica forma possibile, la democrazia parlamentare. Il Parlamento come il luogo del compromesso, del conflitto tra opinioni diverse. E altra tesi, io credo una delle più belle tesi kelseniane, la democrazia, dice Kelsen, esclude l'esistenza di capi, non ammette l'esistenza di capi. È un'affermazione molto forte, che tuttavia di estrema attualità, e lui riporta, a me piace questa citazione, tanto che la riporto spesso anch'io, un passo di Platone, della Repubblica, in cui si chiede a Socrate e che cosa dovremmo fare, è la vecchia questione del governo degli uomini, del governo delle leggi, di fronte ad un genio, una persona dotata di tutte le virtù, una persona straordinaria, non dovremmo forse affidarci a lui così come ci si affida al timoniere anziché alle regole della navigazione? E Socrate risponde: noi dopo aver espresso a questo essere magnifico tutta la nostra ammirazione e dopo avergli spiegato che nella nostra Repubblica non c'è posto per simili portenti, cintogli il capo dall'oro, lo accompagneremo alla frontiera. Perché aggiunge: tutti i capi si considerano eccezionali, si considerano per l'appunto dei portenti, si considerano dei superuomini. E qui Kelsen appunto connette la critica dei capi, poi scriveva negli anni dei fascismi, dei totalitarismi, all'idea per l'appunto del parlamentarismo, mostrando tutte le possibili involuzioni dei sistemi maggioritari che più appunto consentono l'operazione di identificazione fra popolo e rappresentanti. E proponeva per l'appunto il metodo elettorale proporzionale come l'unico metodo in grado di assicurare la massima rappresentanza del corpo elettorale. E poi ci sono tantissime altre proposte, secondo me, di enorme rilievo, che meriterebbero di essere riprese. E il controllo di costituzionalità, dico questo tra l'altro, e poi dirò, ma in parte ho già anticipato, di come il controllo di costituzionalità, pur inventato da Kelsen abbia sempre preso le distanze da questo tipo di controllo, per ragioni teoriche, ma anche per ragioni ideologiche, per la sua concezione della democrazia, l'idea cioè che i giudici potessero prevalere sul Parlamento. E lui invece propone però l'estensione del controllo di costituzionalità non solo alle leggi, ma anche agli atti aventi forza di legge, anche ai regolamenti, anche ai trattati internazionali, non essendoci nessuna ragione, scrive, perché questi siano sottratti al sindacato costituzionale. E poi la legittimazione ad agire di fronte alle corti costituzionali non soltanto dei giudici, ma anche di qualunque pubblica autorità chiamata ad applicare una legge. È un'espansione enorme. Siamo negli anni in cui non esisteva un controllo di costituzionalità, era stato sperimentato in Austria nel 20, ma poi il primo controllo rigido è stato introdotto in Italia e l'anno dopo in Germania. E infine l'esistenza, questa mi sembra una delle garanzie più straordinarie, di un pubblico ministero, lui lo chiama difensore della Costituzione, davanti alla Corte Costituzionale, in grado di sollevare le questioni di incostituzionalità e quindi di impedire che una norma in contrasto con la Costituzione permanga fino al suo annullamento, affidato al caso di fatto, e cioè alla possibilità che questa legge sia rilevante in un giudizio, cosa che non avviene di solito, sono stati fatti salti mortali per arrivare a questo risultato, per le leggi elettorali per esempio, no? Quando mai le leggi elettorali sono oggetto di applicazione da parte dei giudici ordinari, oppure norme che riguardano i poveri immigrati che certamente non hanno gli strumenti e i mezzi per impugnare in giudizio di incostituzionalità le norme contro di loro. Kelsen in sostanza ha, diciamo, prefigurato una serie di garanzie che sono sufficienti a farne secondo me il teorico, io poi ho sempre amato moltissimo Kelsen nonostante le critiche, il teorico diciamo più interessante della democrazia. E però ci sono una serie di aporie non solo nella sua teoria del diritto, io ne ho elencate 10 nella teoria del diritto, ma anche nella teoria della democrazia, e quindi sarà opportuno identificarle. Innanzitutto una prima aporia consiste nel fatto che Kelsen, questo lo ricordava già Francesco, l'idea che russoviana, ma anche kantiana, secondo cui la democrazia politica consiste nell'autodeterminazione popolare, no? Lui sostiene in sostanza che un sistema è tanto più democratico quanto più riflette la volontà della maggioranza, anzi quanto più riflette la volontà del maggior numero di persone. Un individuo è libero se ciò che gli deve fare, secondo l'ordinamento sociale, coincide con ciò che gli vuole fare. Questa è la vecchia idea di Rousseau, secondo me è una delle cose più insensate nella democrazia rappresentativa, perché lo stesso Kelsen che ci ha insegnato, e questa è una sua contraddizione, che la volontà degli elettori si manifesta nel voto, cioè nel designare i suoi rappresentanti, e non si può confondere, cosa che avviene sistematicamente nel ceto politico e soprattutto tra i populisti, la volontà degli elettori con la volontà dei rappresentanti. Questo ce l'ha insegnato Kelsen, ma Kelsen stesso, nel fondare assiologicamente la democrazia rappresentativa, assume questa tesi russoviana e poi kantiana, secondo cui la democrazia consiste nella, diciamo, massima corrispondenza tra la volontà degli elettori nelle decisioni prese e la volontà del Parlamento. Al punto che la massima corrispondenza si avrebbe, non potrebbe non aversi che nella democrazia diretta, in questo ovviamente, dove pure la minoranza tuttavia sarebbe sottoposta alla volontà della maggioranza. E comunque il modello prefigurato da questa massima corrispondenza fra volontà popolare e la volontà politica è quello di una società disciplinare in cui praticamente tutti la pensano allo stesso modo, contraddicendo dunque le premesse stesse da cui Kelsen è partito e che si sono manifestate nella maniera, diciamo, più efficace, più alta, direi. Sono le pagine, tra le pagine più belle di Kelsen in materia di democrazia, nella sua polemica con Schmitt, quando per l'appunto sosteneva, lo ricordava già Riccobono, che una volontà popolare non esiste perché non esiste un macro soggetto dotato di questa volontà, e proprio su questa base io ho ridefinito sovranità popolare. Sovranità popolare appartiene al popolo, che è una norma che esiste nel nostro ordinamento, l'articolo 1 della Costituzione italiana, ma anche nella Costituzione francese, in quella spagnola, praticamente dappertutto, significa che appartiene al popolo e a nessun altro, e nessun potere costituito può impossessarsene, può usurparla. Cioè è una garanzia negativa contro l'onnipotenza delle maggioranze, contro l'idea per l'appunto che le maggioranze e il Parlamento sia il popolo, no, è soltanto la rappresentanza. E per altro verso, siccome il popolo, pur non esistendo come macro soggetto, esiste come la pluralità di tutti noi, e cioè l'esistenza di milioni e milioni di persone, dire che la sovranità appartiene al popolo equivale a dire che equivale alla somma di quei frammenti di sovranità nei quali consistono i diritti fondamentali di cui tutti e ciascuno siamo titolari, non soltanto i diritti politici peraltro, ma anche i diritti civili, i diritti di libertà, i diritti sociali, che vengono attribuiti a ciascuno di noi dalla Costituzione, di cui siamo titolari e che quindi la Costituzione pone al di sopra dei poteri costituiti. Il costituzionalismo sotto questo aspetto ha dato sostanza all'idea illuminista, hobbesiana e poi locchiana dello Stato come strumento per fini non suoi, e cioè la finalità della tutela della vita per Hobbes, che è un paradigma che, al di là del fatto che Hobbes è stato il teorico dello Stato assoluto o anche del formalismo kelseniano, fa per l'appunto dell'istituzione uno strumento per fini non suoi, e questa è una concezione opposta a quelle totalitarie, a cominciare dallo statalismo etico di Kelsen, in forza delle quali lo Stato è un valore intrinseco fine a se stesso. Questa è un'idea, diciamo, contraria alla logica della democrazia costituzionale in particolare, che fa dei diritti fondamentali e dei principi di giustizia stabiliti nelle Costituzioni la ragione sociale di questa persona artificiale che è lo Stato, la ragion d'essere in quanto strumento di questa tutela. Questa è una prima aporia. Poi ce n'è un'altra che io credo che sia stata una caduta di Kelsen, anche se diciamo ripetuta un paio di volte, e cioè Kelsen a un certo punto spinge talmente in là la sua difesa, che è un fatto positivo e su cui tornerò, dei partiti come strumento di organizzazione della rappresentanza, che arriva a teorizzare il mandato imperativo. Mandato imperativo, a prevedere un divieto di mandato, un obbligo di mandato da parte dei partiti, che naturalmente entra in contraddizione con l'idea del compromesso parlamentare, con l'idea della rappresentanza della nazione che c'è nel nostro ordinamento, per esempio, ma che c'è già nella Costituzione francese del 1791, è il vecchio principio dell'impossibilità del mandato, che tra l'altro sarebbe anche impraticabile, perché un mandato imperativo, l'unica forma in cui si può realizzare è la revoca, che peraltro Kelsen ammette. In questi scritti, insomma, sia nel problema del parlamentarismo del 25 che in essenza il valore della democrazia del 29. Poi c'è un'altra aporia, e cioè, questa è una vera contraddizione legata ad una delle tante tesi, a mio parere, insostenibile, e cioè l'identificazione di esistenza e validità. Kelsen difende il primato del Parlamento, il primato della legislazione, al punto da avere una concezione ristretta della giurisdizione, e quindi per esprimere diffidenza nei confronti della costituzionalizzazione dei diritti fondamentali che potrebbero attribuire a una corte giudiziaria la possibilità di mettere nel nulla le leggi del Parlamento. Però nello stesso tempo ha una concezione creativa del diritto giurisprudenziale, la giurisdizione come fonte del diritto, come creazione del diritto, legata in gran parte a questa tesi assurda della identificazione tra esistenza e validità. Le sentenze esistono, sono valide, anche se non applicano la legge. Addirittura formula tutto un discorso assolutamente cervellotico, la clausola alternativa tacita, no? Secondo cui il legislatore avrebbe autorizzato il giudice anche a una soluzione non prevista dalla legge, salva possibilità di revisione, di annullamento, insomma una cosa assolutamente insensata. E quindi praticamente finisce per subordinare la legislazione alla giurisdizione. Questa è non è una caduta, è qualcosa di più. Qui abbiamo una vera contraddizione e anche un controsenso. E infine, ed è la questione più importante, c'è una sostanziale incomprensione della democrazia costituzionale. E qui, per il fatto che Kelsen ha teorizzato le forme dello Stato legislativo di diritto. In questo, seguito totalmente da Bobbio, la democrazia è un metodo di formazione delle decisioni. Punto e basta. Punto e basta. Cioè è soltanto forma, è soltanto procedura, ha a che fare con il chi e con il come. Poi lo stesso Kelsen e lo stesso Bobbio si contraddicono perché, fortunatamente, non essendo vero che sono contro le ideologie, sono dei democratici, sono dei liberali, sostengono che tuttavia Bobbio, in maniera, le condizioni minime della democrazia, no? La democrazia, il futuro della democrazia in tutti i suoi scritti, pur avendo affermato il carattere puramente formale della democrazia, sostiene che però una precondizione, Kelsen dice requisiti, della democrazia è la garanzia delle libertà fondamentali. Adesso, in una definizione, precondizione significa condizioni in assenza delle quali non si può parlare del termine definito. Cioè, qui abbiamo una difesa del modello procedurale formalistico della democrazia in contraddizione con le stesse, diciamo, ammissioni kelseniane e bobbiane sulle libertà come condizioni dell'esercizio, diciamo, del diritto di voto e quindi del funzionamento della democrazia, e quantomeno, dice Kelsen, il divieto per le maggioranze di sopprimere le minoranze, questo che sembra poco, ma è già una dimensione sostanziale, è già un vincolo sostanziale, non è un vincolo formale. E per altro verso, l'aspetto interessante della teoria kelseniana della democrazia, teoria, diciamo, di enorme attualità, soprattutto in tempi come gli attuali, di populismo, di mistificazione ideologica del parlamentarismo come espressione organica della volontà popolare, siamo stati eletti e quindi facciamo quello che vogliamo, eccetera. La incomprensione di quell'enorme mutamento di paradigma che è avvenuta con la sottoposizione della legislazione alla Costituzione, non solo quanto alle forme di produzione del diritto, questo c'è sempre stato naturalmente, ma anche quanto ai contenuti. Non è più vero e non è più sostenibile la tesi, peraltro non soltanto di Kelsen, ma di Schumpeter, di Bobbio, di Dole, di Sartori, secondo cui la democrazia è solo un metodo. La democrazia costituzionale no, la democrazia politica dello Stato legislativo di diritto, caratterizzato dall'onnipotenza della maggioranza, era un metodo, era soltanto un metodo, anche qui occorrerebbe, vabbè, ma diciamo, era soltanto un metodo. Ma fu precisamente il suicidio delle democrazie avvenuto con il fascismo e con il nazismo, che avevano preso il potere con mezzi legali e con la maggioranza, che ha, diciamo, messo in crisi, abbocciato questo sistema, e le costituzioni del dopoguerra, rigide, diversamente dallo Statuto Albertino e dagli statuti e dalle costituzioni ottocentesche, salva l'eccezione americana, ma qui è un altro discorso, è tutta un'altra storia degli Stati Uniti. La vera innovazione è che ci sono alcune cose che non si possono fare, e alcune cose nessuna maggioranza può decidere che una persona venga soppressa, nessuna maggioranza, neanche l'unanimità può decidere appunto la violazione delle libertà fondamentali, e nessuna maggioranza può non decidere la garanzia e l'attuazione dei diritti sociali. Quindi le costituzioni si stabiliscono come limiti e vincoli dopo Auschwitz, dopo appunto gli orrori della guerra e dei totalitarismi, come un ulteriore fondamento della legittimità del potere. Il potere non è più legittimo soltanto perché espressione della maggioranza. Io ho utilizzato due categorie. La maggioranza ha una sfera del decidibile, la sfera del decidibile, limitata e vincolata da una sfera di ciò che non può essere deciso e di ciò che deve essere deciso, e che è precisamente il patto costituzionale che impone limiti e vincoli attraverso la formulazione del principio di uguaglianza e dei diritti fondamentali. E questo è un paradigma formale, perché la grande acquisizione, secondo me la cosa più importante di Kelsen, e qui non so se andiamo tanto d'accordo con Francesco, il carattere formale non significa il carattere non ideologico della teoria. Il carattere formale della teoria, il carattere puro, significa che la teoria del diritto, che a mio parere ha una relazione isomorfica con la teoria della democrazia, tant'è vero che l'idea di validità propria dello Stato legislativo di diritto è soltanto formale. Qualunque legge è valida se emanata dal Parlamento. Ancora adesso in Inghilterra il Parlamento può fare qualunque cosa, ed è sempre valido, adesso non riesce a fare niente, ma comunque può anche rendere il quadrato rotondo, si dice, no, può fare qualunque cosa, perché non c'è una Costituzione. E così era nello Stato precostituzionale. E questa concezione della verità è, diciamo, isomorfica con la concezione della democrazia, come appunto fondata sulla rappresentanza e basta. Mentre nel momento stesso in cui si introducono le costituzioni, cambiano le condizioni di validità, che non sono soltanto formali ma sono anche di contenuto, e cambia la dimensione della democrazia, dimensioni che non sono più soltanto formali ma sono anche sostanziali. C'è questa innovazione. Ebbene, questa innovazione viene sostanzialmente ignorata da Kelsen ed è l'innovazione che viceversa più, diciamo, è spiegabile con il carattere formale della teoria. Cosa vuol dire carattere formale? Che la teoria non ci dice qual è il diritto italiano, non ci dice qual è giusto che sia il diritto italiano, né ci dice come deve funzionare o come funziona in concreto, che sono compiti della scienza giuridica positiva, della filosofia politica, della sociologia del diritto. Costruisce concetti e strutture normative. C'è una frase di Calamandrei che è perfettamente in sintonia con questa idea kelseniana: nel diritto possiamo mettere oro o piombo, e anche nelle costituzioni, perché le costituzioni possiamo anche mettere piombo. Pensiamo alla costituzione ungherese, pensiamo al diritto di portare armi che sta nella costituzione americana. Quindi si può mettere oro o piombo. Il paradigma formale identifica una struttura che è una struttura normativa e logica, in forza della quale possiamo per l'appunto identificare contraddizioni interne all'ordinamento, fra legge e costituzioni, fra regolamenti e leggi, fra provvedimenti e incoerenze. Cosa sono i diritti fondamentali? Sono aspettative, come tutti i diritti soggettivi, di non lesione o di prestazione. E quindi sono aspettative cui corrisponde logicamente, mi rendo conto che questa è una costruzione teorica, apro una parentesi, nella teoria non ci sono tesi vere o tesi false, ci sono tesi più o meno adeguate, più o meno dotate di capacità esplicativa e quindi accettate come vere a preferenza di altre. Sono ricostruzioni appunto concettuali e sistematiche attraverso cui intendiamo il nostro oggetto. Allora, i diritti fondamentali, come tutti i diritti soggettivi, sono aspettative che implicano, cosa significa l'aspettativa di un comportamento? Significa l'esistenza in capo ad un altro dell'obbligo del medesimo comportamento. Se io ho un diritto di credito, qualcun altro ha il debito corrispondente. Se ho il diritto di proprietà, tutti gli altri hanno il divieto di ledere, turbare l'esercizio del mio diritto. Allora, la mancanza di questi doveri e delle loro sanzioni può essere letta e deve essere letta come una lacuna, così come l'esistenza di norme in contraddizione deve essere letta come una antinomia. Kelsen dice, vabbè, di fronte alle incoerenze, del resto anche oggi, per esempio persone come Guastini dicono la stessa cosa, di fronte all'antinomia non c'è niente da fare. Come non c'è niente da fare? C'è la possibilità di sollevare la questione di incostituzionalità. E di fronte alle lacune, anche se non c'è la possibilità di rimuoverle dal punto di vista giudiziario, c'è il dovere giuridico di rilevarle. Non è che i giuristi non abbiano il compito di descrivere i vizi degli ordinamenti. Allora, la grande innovazione del formalismo kelseniano è che questo è un paradigma che vale per lo Stato, vale per l'Unione Europea, vale domani per l'ordine globale. Cioè possiamo espandere il paradigma costituzionale a tutti i livelli e possiamo allargarlo ai poteri privati, oltre che a quelli pubblici. Oggi i poteri economici e finanziari vagano nel mondo globale appunto senza una sfera pubblica alla loro altezza. E il carattere artificiale del diritto, anche questa è un'innovazione di Kelsen, il diritto regola la sua produzione, ma lo regola non solo quanto alle forme, ma anche quanto ai contenuti, che consente di allargare il paradigma, perché oggi il paradigma è in crisi, aveva raggiunto il suo perfezionamento con lo Stato costituzionale di diritto, in forza del quale non ci sono poteri assoluti, tutti i poteri sono soggetti al diritto e sono strumenti per l'attuazione dei diritti fondamentali. Nel momento in cui aveva raggiunto la sua perfezione ed è stato esportato in tutto il mondo con i processi di decolonizzazione, lo Stato ha perso praticamente gran parte dei suoi poteri, che si sono trasferiti fuori dei suoi confini, a livello globale, non parliamo dei poteri economici, con una simmetria, tra l'altro, che rende impossibile alla politica governare l'economia e la finanza. Ma questo vuol dire che il paradigma, proprio perché formale, teoria formale, teoria pura, significa la stessa cosa, pure e formale sono termini sinonimi, è in grado di dar conto e comunque di presiedere alla progettazione, alla costruzione di qualunque sistema giuridico, anche di un tipo statale. Lo Stato è soltanto uno delle tante, dei tanti momenti storici di sviluppo della, dei sistemi politici e dei sistemi giuridici. Viceversa, e qui concludo perché Kelsen, con, a causa di queste tesi difese fino alla fine, equivalenza di esistenza e di validità, il dover essere come esplicazione di qualunque fenomeno giuridico, ha finito per, io ho intitolato un articolo, a parte un libro sulle 10 aporie, Kelsen contro Kelsen, per far torto fondamentalmente a se stesso, perché nel primo Kelsen queste cose erano inconcepibili, è la dimensione prevalentemente statica del diritto. Nell'ultimo Kelsen, in cui c'è una concezione soltanto dinamica, in cui le norme esistono e sono valide indipendentemente da quello che stabiliscono, e questo vale per la legislazione, per la giurisdizione, si finisce nell'irrazionalismo giuridico. Ed è, mi rendo conto che è abbastanza pesante dire una cosa di questo genere di Kelsen, nell'irrazionalismo giuridico. Del resto, uno studioso illustre di Kelsen ha intitolato un suo articolo critico l'irrazionalismo giuridico di Kelsen. E di tutto abbiamo bisogno fuorché dire razionalismo. In altre parole, Kelsen ha ancora moltissimo da insegnarci, ma ci sono moltissime cose di Kelsen che non possiamo più accettare, che dobbiamo criticare con tutto il rispetto che dobbiamo a questo gigante della filosofia politica e del diritto. Allora, sì, prendiamo una piccola pausa e poi ricominciamo la parte del dibattito. Se, parlando, possiamo richiamare chi è ancora fuori. E a questo punto la materia in campo è tantissima. E ci sarà probabilmente uno scambio di punti di vista tra i due relatori, forse. E in primo luogo chiamo però la scuola a esprimersi. Se... Prego. Volevo, la domanda è il rapporto Kelsen-Marx, siccome è stato citato, allora mi piacerebbe saperne di più. E come assolutamente non esperta di diritto, comunque posso dire intuitivamente che la democrazia rappresenta l'uguale potere. La sostanza del discorso mi sembra questo, un dato fondamentale, nel senso che riesce a garantire, quindi ci sono dei contenuti precisi, cioè c'è la garanzia della persona, in primo luogo la sua libertà, e quindi qui tornano secondo me in senso proprio assoluto gli immortali principi, quindi se deve essere libera deve essere uguale, e quindi mi sembra che ci siano questi punti da considerare. Grazie. Io volevo chiedere sempre domande di elucidazione, perché non essendo neanche io un giurista, però avendo letto che, seguendo un po' la traccia del professor Ferraglioli, i vari Kelsen, ho letto da qualche parte, forse mi pare appunto nell'introduzione, che esistono, diciamo così, perlomeno due Kelsen, uno formale che è del periodo europeo e quello invece più empirico che è quello del periodo americano. Ma non lo dico io, l'ho ripreso e sono rimasto così e chiedo delucidazione su questo. E poi la seconda domanda è quella, l'importanza dell'influenza del pensiero neocantiano, essere dove essere, ovvero tra mondo naturale e diritto, all'interno del sé stesso. Sono dei punti che io credo molto importanti per riuscire a capire poi tutto ciò che ne deriva e che è stato da voi illustrato più che bene. No, mi chiedevo, allora, io sono ancora uno studente, insomma, e studiando un po' la filosofia del diritto mi sono approcciato anche naturalmente ad altri autori. Ti sei approcciato? Anche ad altri autori, oltre che esse. che vi chiedevo, a vostro giudizio, quanto fosse utile Kelsen nella lettura dei momenti, diciamo, di rottura dell'ordinamento in qualche modo, cioè nel momento, diciamo, del disordine sociale, della guerra civile, se Kelsen abbia detto qualcosa di importante oppure se ci si debba rimandare fondamentalmente ad altri autori come Schmitt, ad esempio, è anche il momento fondativo dell'ordine, cioè la norma fondamentale effettivamente ha qualcosa di funzionale alla lettura del momento fondativo, o è semplicemente una costruzione, qualcosa un po' di forzato? Ringraziandomi moltissimo perché le vostre relazioni sono state splendide anche per la passione che ci avete messo. E condividendo il percorso e l'approdo finale dell'insistenza che fa Luigi sul costituzionalismo, la democrazia costituzionale, dove vede un limite della impostazione kelseniana, che è un limite secondo me anche dell'elemento sottolineato da Ricco Bono del relativismo valoriale e morale, del relativismo etico. Su questo mi domando, se facciamo questo grande, poniamo questa grande enfasi, secondo me giustamente, sulla democrazia costituzionale, quindi su delle caratteristiche che le costituzioni devono avere anche di contenuto, come diceva Luigi, sul piano dei principi, i principi sono valori, è vero che c'è poi tutto quell'aspetto interessantissimo che è la grande innovazione di Kelsen sulla la costruttività normativa che viene dalla sua visione formale, che è formale non in senso di ideologico come Luigi ci diceva, ma in fondo come trasmissione di un elemento con cui noi costruiamo e apprendiamo i nostri stessi oggetti, li costruiamo, e da questo punto di vista veramente c'è un kantismo assoluto, proprio trascende, è lo schematismo trascendentale della critica del giudizio, ma anche della critica della ragion pura. Però a questo punto non è forse opportuno che noi stessi, quindi è proprio un interrogativo aperto dentro di me, noi stessi ci spingiamo di più sul fronte del distacco dal secolarismo liberale e weberiano, che è Weber quello che ha sancito il politeismo dei valori e il disincanto e la necessità per convivere, che è tutto il secolarismo liberale, con il politeismo dei valori, per convivere con il politeismo, non considerare irrilevanti i valori, perché non ha fatto questo il secolarismo liberale, soltanto una visione molto stucchevole lo può rappresentare così, ma ha confinato i valori in una sfera privata, sostanzialmente stabilendo uno statuto di privatizzazione per l'appunto dei valori, con il che però è caduto il mutismo politico sui valori stessi. Non ne possiamo più discutere, parlare, ma il risultato è che siamo in una situazione nella quale i teorici giustamente del politeismo, del pluralismo dei valori, se non vogliamo dire politeismo, tra cui in filosofia politica grandissimi filosofi che io considero assolutamente produttivi a tutt'oggi, come John Rawls e soprattutto Habermas, che però dice continuamente il mio proceduralismo è carico di ideali, e allora non è un proceduralismo se è carico di ideali, ma questi teorici del pluralismo dei valori siamo totalmente impotenti di fronte al conflitto dei valori, che è il segno della nostra contemporaneità. La nostra contemporaneità è pervasa di conflitto di valori e inoltre di una carica, di un ritorno dell'emozionale, come direbbe Ernest Bloch, che è uno dei nostri classici che abbiamo l'anno scorso molto trattato, un ritorno dell'emozionale non trattato, e non trattato diventa assolutamente ribollente in calderoni fumanti che poi esplodono nelle forme del populismo, che è nelle forme della xenofobia, del razzismo, dell'invenzione di un nemico, eccetera, eccetera. Quindi io vi chiedo se, posto che questo lo diceva anche, lo sottolineava Francesco, che in realtà è assolutamente praticata una continua discussione e giustificazione razionale dei valori, ma allora non sarebbe meglio, più opportuno, più utile, più produttivo riproporci un problema di tematizzazione, argomentazione, giustificazione razionale, etica del discorso, eccetera, eccetera, su tutte queste enormi questioni che ci stanno così assediando? Mi è capitato di difendere varie volte questioni di diritti sociali davanti alla Corte Costituzionale. E quindi mi è capitato di verificare che i diritti fondamentali hanno dei cori d'ombra. Per esempio il diritto alla stabilità del posto di lavoro, di fronte ai diritti di iniziativa economica. Come bilanciare i due diritti in base evidentemente a, come dire, opzioni di valore di cui parlava prima la Pennacchi. Ma allora la democrazia non è un processo lineare al culmine del quale si colloca la Corte Costituzionale, perché nel riempire le clausole generali la Corte Costituzionale rimanda a ciò che di vivo attualmente, in ordine per esempio al senso compiuto del diritto al lavoro. Quindi c'è una logica, un processo circolare la democrazia è la struttura e quindi l'ordinamento giuridico non è un ordinamento lineare, ma è un ordinamento circolare. Per organizzare al meglio questa circolarità, evidentemente occorre che dentro la Corte Costituzionale, a livello di istruttoria, quando si discute del conflitto tra diritti costituzionali e si tratta di dare corpo all'uno e all'altro, evidentemente bisogna dare spazio alle organizzazioni rappresentative dell'uno e dell'altro diritto. Quindi, voglio dire, i diritti fondamentali vivono di sostanza, ma vivono anche di procedura. E quindi da questo punto di vista le manchevolezze, come dire, procedurali dentro la Corte Costituzionale sono aspetti da evidenziare per dare corpo ai diritti fondamentali. Qual è la tesi finale? La tesi finale è che l'ordinamento è un processo circolare, che non esiste soluzione di continuità tra le istituzioni e, chiamiamola così, la democrazia sostanziale dei cittadini organizzati in organizzazioni intermedie o anche singolarmente, e che occorre naturalmente un dialogo a più livelli per dare rappresentanza agli interessi mediante l'ottimizzazione delle procedure. Procedure e sostanza, in un dialogo aperto. Chiedo naturalmente se questa mia opinione sia, come dire, giustificata. Io volevo più che altro intervenire per un chiarimento personale, partendo dall'assunto del fatto che Kelsen è stato a lungo considerato un grande difensore della democrazia e, come ha spiegato il professore Riccobono, del relativismo democratico, nel senso che difende quel pluralismo di valori che è alla base degli ordini costituzionali. Ora, concentrandoci sul binomio della norma giuridica, esistenza uguale validità, dove la validità della norma giuridica è data appunto da un aspetto puramente formale del diritto, ossia viene posta in essere tramite una procedura legislativa, che nel nostro caso è quella parlamentare. Ora, se il Parlamento emana una legge dal contenuto ingiusto e quindi naturalmente questa legge dovrà essere applicata perché è valida, perché è stato rispettato il procedimento formale, però si dà comunque adito ad una cosa ingiusta, che da un certo punto di vista può essere anche una deriva totalitaria, come abbiamo visto nell'esperienza del nazismo e del fascismo, perché comunque Hitler è salito al potere mediante un procedimento parzialmente democratico, anzi tutto democratico. Come si può combattere allora questo, e perché Kelsen in questo è contraddittorio o meno? Cioè, è più che altro un chiarimento che... Le domande sono parecchie e ripartiamo come volete voi. Sì, parte Luigi Ferrelli. Allora, andare via a un certo punto. Ma il rapporto con Marx, Kelsen ha scritto molti saggi sul bolscevismo, critici nei confronti dello stalinismo e di quel che stava... Kelsen era un socialista, non era un liberale, era un socialdemocratico, dichiarato, insomma. E ci sono molti passi dei suoi lavori di filosofia politica, di teoria della democrazia, in cui si sente, si capisce questa opzione per il movimento operaio, per le riforme sociali, per il conflitto di classe, eccetera. Ma è stato un critico radicale del bolscevismo e di questa idea malsana della dittatura del proletariato, che è diventata una dittatura pure e semplice, quella che Bobbio giustamente ha chiamato l'utopia capovolta. Il rapporto con Kant è decisivo, soprattutto nel primo Kelsen, la stessa espressione pura viene da Kelsen, no? Come la critica della ragion pura. E c'è un passo kantiano in cui si parla proprio di dottrina pura del diritto. E è vero, Kelsen assume il dover essere come una forma a priori del pensiero giuridico, e la stessa teoria come in relazione, come diceva Laura, trascendentale con la realtà, come per l'appunto un sistema di forme e di categorie in grado di rendere pensabile la realtà giuridica. Secondo me questa connotazione di pura si rende più semplicemente con formale. È la tesi di Bobbio che io ho adottato, tanto che formale comporta anche formalizzabile, cosa che ho fatto nella teoria del diritto, attraverso la formalizzazione del linguaggio teorico, che non è un linguaggio fondato su definizioni lessicali, cioè sull'interpretazione dei codici e delle leggi. Non avrebbe nessun senso andare a trovare nei codici il significato della parola validità o della parola diritto soggettivo, permesso, obbligo o vietato, o persona giuridica o persona fisica. Sono concetti della teoria che sono il frutto di definizioni stipulative, di convenzioni. Convengo di chiamare atto giuridico, per esempio nel mio lessico, qualunque comportamento produttivo di effetti giuridici, oppure situazione giuridica, cioè potere, dovere, diritti, qualunque figura deontica la cui possibile attuazione è un atto giuridico, insomma convenzioni, che rendono la teoria interpretabile da qualsiasi tipo di ordinamento, ma anche, a mio parere, interpretabile dalla stessa filosofia politica, dalla stessa sociologia del diritto. Cioè la teoria può essere un tessuto connettivo, un apparato concettuale che proprio per il suo carattere formale si presta all'interpretazione da più punti di vista e da parte di più ordinamenti. Se è una teoria del diritto dotata di forte capacità esplicativa, è in grado di dar conto degli ordinamenti primitivi, degli ordinamenti autoritari, degli ordinamenti antidemocratici, come degli ordinamenti democratici. Ripeto, nel diritto possiamo mettere oro o piombo o anche peggio. E quindi in questo senso kantiano, l'altra questione che è stata sollevata è quella della norma fondamentale. La norma fondamentale viene fuori per un'esigenza intrasistematica, cioè bisogna mettere al vertice qualcosa che sia per l'appunto una norma e non un soggetto. Secondo me non è assolutamente necessario, si può benissimo mettere la Costituzione. E empiricamente la Costituzione è il prodotto di un atto costituente che a sua volta è l'esercizio di un potere costituente. Sono figure concettuali in grado di dar conto della dinamica e dell'evoluzione, delle trasformazioni e delle rivoluzioni dei sistemi giuridici, mentre la norma fondamentale resta, è un'altra contraddizione a mio parere con il positivismo giuridico, e cioè con l'idea che le norme esistano se prodotte. Invece la norma fondamentale è un'ipotesi teorica, non è prodotta da nessuno. Insomma, è una delle tesi più deboli di Kelsen. Probabilmente Francesco non sarà d'accordo. Poi c'è la questione del giudizio morale. È chiaro che i sistemi giuridici hanno dei contenuti che possono essere morali o immorali. Il costituzionalismo ha imposto contenuti, non la morale, come dicono gli oggettivisti, ma una determinata morale, quella liberal-democratica e social-democratica. Occorre sempre diffidare la polemica con gli oggettivisti, che ripeto è diventata anche abbastanza stantia, e con tanti amici, penso ad Atienza, penso ad Alexi, è la morale. No, la morale non esiste come entità, diciamo, così come esiste, diciamo, esistono più morali, esistono più concezioni morali. Le costituzioni hanno costituzionalizzato principi fondamentali di convivenza pacifica, quelli che consentano razionalmente la convivenza pacifica fra persone che hanno opinioni politiche diverse, la democrazia, la dignità della persona, l'uguaglianza attraverso l'universalismo dei diritti, sia dei diritti di libertà che dei diritti sociali. Insomma, l'insieme dei valori politici sono tutti molto coerenti tra di loro e a mio parere, anche qui diversamente da quello che sostiene Bobbio, tutti questi valori sono sostanzialmente di sinistra. Sono sostanzialmente di sinistra. Non è vero che l'uguaglianza è la sinistra e la destra è la libertà, se non confondendo libertà con autonomia, e qui venga l'altra questione sollevata, mi pare, dall'intervento, i diritti di iniziativa economica. Sono diritti fondamentali, ma sono diritti consistenti in poteri, il cui esercizio è a un livello normativo più basso rispetto al livello della Costituzione e addirittura della legge. Quindi, secondo me, non è ammissibile parlare di conflitto fra diritti dello stesso livello, perché l'esercizio dell'attività economica è di grado normativo più basso rispetto al livello della legge e al livello della Costituzione. Per non parlare del diritto di proprietà, che a sua volta è un diritto, diciamo, prodotto da atti giuridici negoziali e quindi nella gerarchia delle fonti teorizzata da Kelsen, la struttura a gradi, norma fondamentale, costituzione, legge, negoziazione privata, la proprietà privata è il prodotto di atti di negoziazione che sono subordinati alla legge e quindi alla Costituzione. Questo è abbastanza importante perché nel dibattito, insomma, e anche purtroppo nel dibattito filosofico, perché di solito vengono sempre presentati, c'è una tendenza, secondo me una moda, a dire che tutti i valori sono fra di loro in conflitto, anche quelli costituzionali. Cioè, non soltanto che c'è conflitto fra i valori costituzionali e i valori del fascismo, supponiamo, no? Questo è ovvio, perché le costituzioni nascono per la negazione del fascismo. E quindi ci sono, non so, i valori della gerarchia, della disuguaglianza, i razzismo, chiamiamoli disvalori, quello che sia, ma comunque convinzioni e comunque che hanno, diciamo, avuto il consenso di maggioranze, purtroppo, in non lontanissimi passati, che continuano oggi a imperversare, purtroppo, ma ci sono alcuni che ritengono che anche i valori costituzionali, a me non piace l'espressione dei valori, ma comunque i principi, le norme costituzionali, sono tra loro in conflitto. Alcuni conflitti ci sono, non si può negare che ci possa essere un conflitto fra il diritto alla salute, il diritto all'ambiente, eccetera, ma nella maggior parte dei casi non si tratta di conflitti, si tratta di livelli normativi diversi e in alcuni casi di impossibilità di conflitto, ad esempio la libertà di coscienza, la libertà, l'immunità da torture, cioè diritti consistenti in pura immunità, che non hanno esercizio di nessun tipo, sono limiti non limitabili. Vabbè, ma qui entriamo su questioni di fondo, tra l'altro, perché questa cosa del conflitto fra valori, mentre è una tesi ovviamente che è alla base il pluralismo dei valori del compromesso parlamentare e della rappresentanza, che deve consentire a tutte le posizioni politiche di esprimersi, a tutte. Io non, a me non, le norme sull'apologia del fascismo, insomma, la ducesima l'ho sempre considerati dei segni di debolezza. Insomma, i fascisti hanno purtroppo altri argomenti per affermarsi che non siano le idee. E il pluralismo dei valori esclude l'oggettivismo, che comporta quella che un pensatore che io trovo orrendo, che mi è sempre sembrato, ma che comunque ha tirato fuori questa espressione, la dittatura dei valori. La dittatura dei valori è questa: se noi assumiamo come veri alcuni valori, non tolleriamo che 4 più 4 faccia 8, faccia 9 anziché 8. E quindi, mentre all'interno delle costituzioni i conflitti sono molto meno, anche se ipotizzabili, e nel caso per esempio da lei prospettato del diritto alla stabilità del posto di lavoro, che in questa forma non esiste nella Costituzione, però c'è, la Repubblica si fonda sul lavoro, la Repubblica italiana, e per altro verso tutti i diritti che fanno del lavoro un fattore della dignità personale, mentre per i diritti del mercato, siamo di fronte a diritti di potere il cui esercizio comporta, è a un livello più basso del livello costituzionale, e quindi sono diritti che dal punto di vista teorico sono esercitabili. Anche la Corte Costituzionale non ha le idee chiare su questo, sono esercitabili soltanto nei limiti della Costituzione, cioè nel rispetto dei diritti fondamentali. Il costituzionalismo sotto questo aspetto è il sistema di limiti e di vincoli non solo ai poteri pubblici ma anche ai poteri privati. L'altra cosa sollevata da Laura Pennacchi, le costituzioni hanno costituzionalizzato, dopo le tragedie, hanno costituzionale non valori qualsiasi, non voglio cadere nell'oggettivismo, i valori che consentano la convivenza pacifica, che consentono, che rendono possibile, diciamo, la dignità di tutti. Tutti i diritti sociali sono diritti che garantiscono la dignità, non parliamo poi della libertà, la libertà è un fattore di... cioè sono quei principi che hanno questa forza, diciamo, detto questo poi, non è che questa è sfera pubblica, se vogliamo definire la sfera pubblica si definisce attraverso la Costituzione. E la sfera pubblica si definisce precisamente attraverso questi principi, che sono la ragione sociale dell'artificio, che è stata esplicitata. Io uso sempre a lezione un'immagine che usa queste figure Creonte e Antigone. Noi abbiamo avuto nel diritto premoderno l'idea che la validità era tutt'uno con la giustizia, che però di fatto era la giustizia del potere, la giustizia dei giudici, non essendoci una formalizzazione del diritto, e cioè un diritto oggettivo di produzione statale, legislativa, da parte del sovrano, la esperienza giuridica consisteva nella produzione da parte dei giudici del diritto, ovviamente sulla base della dottrina, dei precedenti, e quindi ci sta un passo di Hobbes, cui contesta questo sistema, e chiama in causa nel dialogo fra un filosofo e un cittadino, fra un filosofo e un giurista, il giurista che sarebbe Sir Edward Coke, che sostiene la ragione legale, che è una ragione di verità. E Hobbes gli dice, no, è la vostra ragione di voi giudici. Comunque, diciamo che questa equivalenza di giustizia e validità, che di fatto poi finiva per sconfinare nell'arbitrio, significa... diciamo sul piano ideologico l'affermazione della giustizia. La grande conquista del positivismo giuridico, secondo me col positivismo giuridico nasce la politica moderna come produzione del diritto. Si riconosce il carattere artificiale del diritto, tutto il diritto è prodotto dagli uomini, il sovrano in Hobbes, che poi si democratizza, ma il diritto non è naturale, è prodotto. È il trionfo di Creonte, è Creonte che vince, che però poi ci porta al disastro del fascismo, del nazismo, delle guerre, dei totalitarismi, degli stalinismi, eccetera, eccetera, e il costituzionalismo è la rivincita di Antigone, che impone la sua legge della ragione in forma costituzionale a Creonte, cioè al legislatore. Questo è quello che è successo. È successo precisamente questa rivincita di Antigone, anche se poi Creonte continua ad essere un prepotente, come dimostrano le vicende purtroppo che stiamo attraversando, ma insomma oramai si è perso il senso della democrazia come sistema dei limiti e dei vincoli, no? Abbiamo vinto le elezioni, facciamolo e ci pare, siamo l'incarnazione del popolo, che tra l'altro è un'idea di sovranità che ignora tranquillamente, ed in questo è assolutamente alleata con i poteri selvaggi del mercato, che i veri sovrani sono i poteri economici e finanziari globali, e i veri alleati sono quanti si oppongono alla costruzione di una sfera pubblica sovranazionale, cioè europea e globale. Quelli sono i veri alleati, quanti nell'illusoria rivendicazione di una sovranità nazionale che non esiste più, perché di fatto appunto i poteri che contano si sono trasferiti fuori dai confini statali, sono i principali alleati del sistema globale, dell'ordoliberista, privo di una sfera pubblica alla sua altezza. L'ultima questione, i diritti sociali sono diritti per l'appunto a prestazioni positive, così come i diritti di libertà sono soprattutto diritti a immunità, diritti negativi, libertà negative, e sono entrambi vincolanti. Questo non è entrato molto nella cultura giuridica, entrambi vincolanti nei confronti del sistema politico, sia di sinistra che di destra. Un sistema politico alcune cose non le può fare, e cioè la riduzione dei diritti di libertà e della dignità della persona, del principio di uguaglianza, cosa che viceversa sta facendo, e per altro verso alcune cose le deve fare, e cioè la garanzia dei diritti sociali, la loro prestazione, eccetera. E che cosa fa contro la legge ingiusta? E contro la legge ingiusta, mentre nel modello dello Stato legislativo di diritto c'era solo la critica esterna, la rivolta, eccetera, oggi gran parte delle leggi ingiuste sono anche incostituzionali, e quindi c'è la possibilità del loro annullamento, e naturalmente c'è sempre un'autonomia dal punto di vista esterno, che ci saranno sempre cose ingiuste nonostante le costituzioni, e diritti non ancora stabiliti, all'alimentazione di base, i beni comuni, le cose, insomma, il demanio planetario e soprattutto la dimensione sovranazionale della sovranità, del diritto e dei diritti, che è completamente da costruire. Però le costituzioni hanno ridotto la divaricazione fra diritto e morale, nel senso che hanno costituzionalizzato il dover essere costituzionale, che non a caso ha incorporato principi liberal democratici, diritti di libertà, i diritti sociali, l'uguaglianza, la dignità delle persone, creando quello che a mio parere, tesi totalmente antichelseniana, creando il diritto illegittimo. Cioè questo è illegittimo. La novità, la vera novità del costituzionalismo è che ha fatto il suo ingresso, che è la cosa più interessante secondo me, che i giuristi dovrebbero criticare, il diritto illegittimo o per commissione, e cioè norme in contrasto con la Costituzione, o per omissione, norme, la mancanza di norme che attuano, abbiamo il diritto alla salute, come si dice, come a livello internazionale, e soprattutto lacune, abbiamo il diritto alla salute e poi lo diciamo di alla sanità, non ha gli strumenti per distribuire farmaci salvavita. Questo ha cambiato, secondo me, il metodo tecnico-giuridico, che non può più essere valutativo, così come diceva Bobbio e Kelsen, o anche il vecchio metodo tecnico-giuridico, imponendo alla scienza giuridica un ruolo critico nei confronti del diritto esistente, sulla base del diritto medesimo, e anche un ruolo progettuale. E cioè, in Italia non tutte le norme sono state attuate, anche quelle su... il diritto di sussistenza in caso di disoccupazione volontaria non è stata attuata, e neanche questo reddito di cittadinanza ne è un'attuazione, diciamo, all'altezza del problema. E leggere criticamente l'esistente sulla base delle cose, se poi ci trasferiamo anche il diritto internazionale, non è privo di costituzioni, perché la Carta dell'ONU, la Dichiarazione dei diritti, le tante carte di cui disponiamo e che rischiano di diventare appunto una pura lustra ideologica se rimangono per l'appunto sulla carta, ci consentono di leggere le relazioni internazionali, dalle guerre alle violazioni massicce, l'apartheid mondiale di milioni di persone senza farmaci salvavita, senza acqua e senza alimentazione di base, come violazioni. È diritto illegittimo. E questa è l'enorme novità. Non saremo mai un mondo deonticamente perfetto, però potremo essere meno imperfetti di quanto non siamo. Grazie. Molte domande, consentitemi di dire qualcosa sulla relazione di Ferraioli, dove si vedono poi quelli che sono dei contrasti ultimi, forse anche difficilmente spiegabili. Kelsen non è l'autore dello Stato costituzionale di diritto, la sua teoria non la può rappresentare, cioè richiedere, certo. No, ma non si può chiedere la teoria kelseniana, cioè non li si può imputare di non avere strumenti capaci per interpretare lo Stato costituzionale di diritto. E qui secondo me il punto. Aspetta, sì, Kelsen è morto nel 73, ma la sua produzione ha degli alti e bassi notevolissimi. Dei bassi, perché più andava avanti e più aveva una posizione puramente dinamica. Ma più andava avanti e più non produceva, più ripeteva ciò che aveva detto. Certo che peggiorava. Rispetto al marxismo, la teoria comunista del diritto, che è degli anni 50, è un libro pessimo rispetto a Socialismo e Stato, che è del 20 e quindi del 23. C'è proprio una regressione di pensiero. La teoria generale del diritto e dello Stato, che è del 45, è un libraccio rispetto all'Allgemeine Staatslehre del 25. Lì abbiamo un'originalità di pensiero e una forza propulsiva. E dopo la guerra, sempre di più, abbiamo un essiccamento del pensiero, un ripetere in forma dogmatica alcune cose, una revisione contraddittoria. Lì ha senz'altro ragione Luigi, di quelle che sono architetture della dottrina pura del diritto, e fino ad arrivare ad un periodo maniacale in cui Kelsen rispondeva ad ogni critica. E la lettura di quei saggi lascia sconfortati. Sono saggi di critica, spesso di illustri sconosciuti, che si facevano belli nel criticare la seconda edizione della dottrina pura del diritto, e Kelsen si sente in dovere di replicare punto per punto a tutti questi in una serie di saggi che nulla aggiungono e fanno vedere una sclerotizzazione del pensiero. Poi vi sono i saggi pubblicati postumi, e lì è stata anche una scelta molto dibattuta dai vertici dell'Hans Kelsen Institute, se dovevano essere pubblicati scritti che erano più che altro a livello di appunti, a livello di annotazioni. La pubblicazione della teoria generale delle norme del 79, che è stata pubblicata nel 79, quindi 6 anni dopo la morte, è stato un problema, perché là vi erano delle tesi che erano chiaramente provvisorie, dei materiali che erano grezzi. Quindi vedere la teoria generale delle norme con il suo irrazionalismo, che c'è l'irrazionalismo kelseniano, ma non c'è quell'irrazionalismo grezzo e rozzo della teoria generale delle norme, però probabilmente quello era un materiale che era in via di formazione, come altri, per esempio un saggio sul pensiero greco e così via. Ma oltre a questa visione, Kelsen è l'autore dello Stato legislativo di diritto senz'altro, ma è l'autore che, voglio dire, ci ha soprattutto ha disboscato tutta la scienza giuridica da una serie di dogmi, e senza questo disboscamento noi non saremmo a parlare adesso con questa libertà e con questa proprietà di categorie, possiamo dire. Noi mi sembra che a volte facciamo a Kelsen il rimprovero di non aver fatto quel passo che la teoria posteriori ha fatto grazie alla critica di Kelsen. È un uomo nato nel 1881. Ma insomma, è nato nel 1881. Insomma, rendiamoci conto. La trasformazione dello Stato costituzionale di diritto è tutta del dopoguerra, ma soprattutto direi dagli anni 70 in poi. Nella sua negli anni 50 è brutta, è un tentativo di adattare la sua teoria al pensiero americano, e quindi prende tutta una serie e non è un caso che è lì che nasce poi il recupero dell'imperativismo. No, il 34 è il riassunto preciso di quelle che sono le posizioni fino a quegli anni. Sì, insomma. Nel 34 c'è già la dimensione dinamica come prevalente. Ma c'era anche nel 25 la dimensione dinamica. no, non è quello, insomma. L'esistenza della legalità rimane, che tra l'altro neanche non sono legalità di diritto. Comunque, comunque è un pensiero ricco di contraddizioni. Le sentenze invalide non sono state inventate dal Costituzione. E Kelsen, viceversa, negava questa dissociazione tra esistenza della legalità. Il diritto ha regolato la sua stessa produzione, come ci insegna Kelsen, regolandolo sul piano sostanziale, non soltanto formale, e questo va sempre fatto, ma il diritto rimane in porto. Sì, d'accordo. Quindi ci sono proprio dei vizi d'origine che non possiamo negare, nonostante il rispetto che abbiamo. Che sia un pensiero ricco di contraddizioni. Siamo d'accordo su questo. In fin dei conti tutti coloro che si sono avvicinati al kelsenismo non hanno fatto altro che rilevare contraddizioni, fin dall'inizio della sua cosa. Che sia una contraddizione poi portatrice di conoscenza, che la contraddizione della teoria forse sia un rispecchiamento della contraddizione della pratica, questo è un altro discorso e io mi sento per molti aspetti di dirlo, soprattutto per una fotografia dell'ordinamento giuridico incoerente, incompleto, dove non c'è certezza. Sì, ci piacerebbe un ordinamento giuridico diverso, però forse la realtà è più vicina a questo che non... Eh già, ma esiste anche una visione sociologica, una fotografia di come... è il diritto. Ultima cosa, il diritto illegittimo. Il diritto illegittimo indica, secondo me, una fiducia nel ceto dei giuristi, sia dei giuristi teorici, sia dei giuristi pratici, è una fiducia che non sempre è da riporre. Io mi ricordo sempre il detto di Lutero, giuristi cattivi cristiani. Soprattutto se neghiamo l'esistenza del diritto illegittimo. Ma forse non è più compito dei giuristi, là si apre una pagina politica, una pagina di azione politica che è mancata ai movimenti democratici dagli anni 70 in poi. E questo è il punto. Pensare che i giuristi, che è un ceto interno a una allocazione di potere, sì, cattivo cristiano, possa essere uno dei motori principali di un cambiamento di questa cosa, magari fosse così. Io ho paura di no. Io ho paura di no. Ecco, forse questa è la differenza. Un ottimismo e un pessimismo nell'azione. Dopodiché, sulle singole analisi che Ferraioli fa, non si può che essere d'accordo sulle garanzie primarie, sui diritti sociali, sulla necessità di una costituzionalizzazione della globalizzazione, ma perfettamente d'accordo su quello. Ecco, però probabilmente questa è un'azione politica e l'assestamento giuridico viene dopo a questo discorso. Sì. Posso? Vorrei un po' rispondere ad alcune domande. Marx è presente in Socialismo e Stato, è precedente in un articolo del 32 La teoria generale del diritto alla luce della concezione materialistica della storia, è presente nella teoria comunista del diritto, nel bolscevismo e in altri saggi. Ma probabilmente quello che Kelsen è critico di Marx, ne ricorda molti passaggi, soprattutto a proposito dei diritti di proprietà, nel volumetto sulla teoria generale del diritto alla luce del materialismo storico, alcuni momenti della formazione della società politica, come vengono fatti. Ma però secondo me il parallelo più bello che si possa fare tra Kelsen e Marx è quello che fece Pashukanis, un autore sovietico che scrisse una teoria generale del diritto che è stata tradotta in italiano da Cerroni, e lui disse: guardate che c'è un parallelismo tra l'astratta forma di merce di Marx e la norma astratta di Kelsen. Come l'astratta forma di merce si può riempire di ogni contenuto, di ogni valore d'uso, e così l'astratta forma di norma di cui parla Kelsen si può riempire di ogni contenuto, cioè è indifferente, i contenuti sono indifferenti, ciò che conta è di essere immessi nel meccanismo astratto della norma. E questo riprende senz'altro la critica marxiana alla forma astratta, non solo alla forma astratta di merce, ma Kelsen non poteva confrontarsi chiaramente con i manoscritti del 43-44, ma anche con il momento dell'astrazione come momento formativo della società politica e quindi della critica hegeliana. Tant'è che poi in questi scritti Kelsen poi si ritrova vicino a quella che è la critica marxiana del feticismo, e in certo qual modo c'è una certa influenza di questi aspetti critici epistemologici marxiani col pensiero kelseniano, laddove Kelsen attacca i raddoppiamenti della scienza del diritto, la personificazione, tutta quella serie di procedimenti che, come il feticismo, portano a una distorsione dell'oggetto della conoscenza. A una distorsione dell'oggetto della conoscenza. Distorsione ampliata, e anche qui è un ritorno marxiano, col discorso dell'ideologia. Il discorso dell'ideologia che avvicina in Kelsen al discorso della distorsione cosciente, quindi della falsa coscienza, anche se poi si colora in termini abbastanza idealistici, se vogliamo, della possibilità di una conoscenza priva di ideologia, dove non è priva di giudizi di valore alla Weber, non è semplicemente la Wertfreiheit, ma è priva di ideologia, cioè priva quindi o con l'utilizzo di alcune categorie mentali non riscontrabili, che portano comunque a un incasellamento e una distorsione del reale. E questo c'è pure in alcune pagine della dottrina pura del diritto. Il neocantismo, Sein e Sollen, certo è kantiano. Si dice che è neocantiano perché la storia nacque da un recensore dei problemi fondamentali del 1911 che, leggendo quel testo, dice: ma in questo testo noi troviamo delle categorie che fungono da costruzione della realtà, vi è una costruzione dell'oggetto scientifico dati alcuni presupposti che sono presupposti trascendentali. Questo è lo stesso percorso, dice il recensore, che Cohen fa nella sua costruzione di un'etica pura. Il movimento neocantiano di Marburgo di Cosa tentava la costruzione nel campo della ragion pratica di edifici di edifici di sapere portati trascendentalmente, posti alcune categorie all'inizio. L'utile nell'economia, Stammler, il bene nell'etica, Cohen, e così Kelsen aveva posto la norma, secondo questo recensore, come categoria trascendentale che dava la possibilità di costruire l'oggetto giuridico. E Kelsen dice: no, io veramente non conoscevo Cohen, lo scrive nel 23, nella prefazione della seconda edizione, però effettivamente, leggendo Cohen, capisco che vi sono molte affinità. E lì nasce il discorso del Sollen e del Sein come categorie trascendentali in senso neocantiano, che sarà poi il discorso preso da Treves nel diritto come relazione e via dicendo. Il neocantismo va avanti, ha delle trasformazioni, per esempio con Cassirer si arricchisce di tutta la distruzione del concetto di sostanza con l'immissione del concetto di funzione, e guarda caso Kelsen segue passo passo tutti questi autori. C'è un breve articolo su Cassirer, e l'idea di funzione è la norma fondamentale, poi, se ci pensate bene, quella funzione che rende possibile la conoscenza di una serie di fenomeni che altrimenti sarebbero inconoscibili. È una funzione conoscitiva, ipotesi trascendentale. Si avvicina al movimento del positivismo logico, e quelle che erano categorie trascendentali si ripresentano come categorie modali. La mia idea è che perdersi in tutte queste cose e sia poi di poca importanza, se vogliamo, perché porta ad un universo filosofico ormai superato, insomma, che è di poco interesse. Le periodizzazioni, sì, da principio si pensava a due Kelsen, il Kelsen americano e il Kelsen precedente. Poi vennero tutta una serie di periodizzazioni, soprattutto Carsten Heidemann iniziò negli anni 70 a dividerlo in quattro periodizzazioni, il rispose Paulson. Insomma, c'è una discussione che non finisce più sulla periodizzazione kelseniana, un po' come c'è stata sulla periodizzazione marxiana, no? La rottura epistemologica, vi ricordate, l'Althusser e tutto quanto. In realtà, probabilmente ciò è un certificato di morte del pensiero kelseniano, perché se incominciamo col bisturi a tranciarlo, insomma, non so quello che può rimanere. Ci sono parti che sono più vive, più interessanti, possiamo dire, che ancora ci prendono, e parti che non sono che non hanno più interesse. A mio parere, ma è una cosa personale, la parte più originale è quella anni 20-30. La norma fondamentale, l'ha detto Luigi, è un'ipotesi conoscitiva, un'ipotesi trascendentale, pagando il debito al neocantismo. Che cos'è? È come l'idea di funzione, cioè è un fascio di luce che ci consente di leggere un pezzo dell'universo sociale che altrimenti sarebbe caos. Sì. Ecco. E attraverso questo passepartout, questo fascio di luce, il caos, dice Kelsen, diventa cosmo ordinato. Riusciamo a dare un ordine. C'è bisogno di questa norma fondamentale, al di là del discorso del fondamento di validità delle norme, che chiaramente, andando in su, c'è un punto dove siamo staccati. C'è anche una ragione pratica della norma fondamentale, che si coniuga con quello che lei chiedeva sulla rivoluzione, in certo qual modo. Che cosa accade quando in un determinato territorio insistono due ordinamenti giuridici portatori di due ordini diversi. Pensate, per esempio, le repubbliche partigiane e la Repubblica di Salò, sui medesimi territori, a volte. Che cosa accade? Accade che noi consideriamo valida la norma di uno dei due ordinamenti perché operiamo per quell'ordinamento giuridico la salita di validità. D'accordo? Fino ad arrivare a un punto in cui non ho nessun aggancio positivo. E allora che cosa faccio? Io, soggetto conoscente posto di fronte al diritto, presuppongo la norma fondamentale per le repubbliche partigiane e per esempio non per la Repubblica di Salò. Vedete, c'è un significato pratico. Ma allora mi direte, ma è tutto allora così convenzionale, così friabile, se volete? Sì, Kelsen lo dice apertamente. Dice una frase che non è possibile all'anarchico che legge l'ordinamento giuridico semplicemente come un ordinamento della forza e di violenza, non è possibile farle cambiare idea. Sarà per lui sempre un ordinamento della forza e di violenza. Cioè all'origine della qualità giuridica, della donazione di senso giuridico, vi è quindi un atto del soggetto conoscente che può essere ispirato, devi andare? Che può essere ispirato da che cosa? Da una scelta morale. Questo Kelsen lo dice apertamente allora quando si tratta di scegliere tra primato del diritto interno e primato del diritto internazionale. È possibile, secondo lui, da un punto di vista scientifico, tanto scegliere il primato del diritto interno, tanto il primato del diritto internazionale. Non è una scelta necessitata. È vero, il primato del diritto interno si involve in alcune contraddizioni, quelle legate al concetto di sovranità, che è un concetto unico che non lascia immaginare la sovranità di due stati, no? Però è possibile questa cosa. Allora noi come scegliamo tra le due? Dice Kelsen, se nella scelta del diritto interno facciamo una scelta soggettivista, solipsistica, di aggressione e di bellicismo, in sostanza. Nella scelta del diritto internazionale facciamo una scelta oggettivistica, pacifista. Di rispetto degli altri stati. E qui abbiamo chiaramente l'idea della presupposizione di una norma fondamentale che discende da una scelta etica, poi in ultima analisi, come per dire. La rivoluzione, Kelsen dice apertamente che la rivoluzione è una fattispecie produttrice di diritto se è vincitrice, opponendosi a tutte le considerazioni precedenti che consideravano la rivoluzione come fonte di comunque illegittima, comunque come fonte di non diritto. Una buona parte della sua teoria è mossa a contestare la teoria del riconoscimento che negava valore di ordinamento giuridico al diritto dell'Unione Sovietica proprio per l'avvenuta rivoluzione. Se la rivoluzione è vincitrice, non c'è nessun motivo di delegittimare il nuovo governo. È un pensiero, come dire, sì, ma tu devi considerarlo nell'epoca. Nell'epoca basta che pensavano alla rivoluzione, ma tutti i giuristi gridavano la rivoluzione è lo scandalo, i popoli educati civilmente non si rivolgono alla rivoluzione. Santi Romano, in piena seconda guerra mondiale, nei frammenti di un dizionario giuridico, dice è meglio la guerra della rivoluzione, perché la rivoluzione porta l'anarchia, porta l'ordine, invece nella guerra c'è l'ordine. Scusate, lo dice con i bombardamenti di Dresda, con il genocidio, lo dice con Ecco, perché sono regolati? Sono regolati, insomma, mi sembra che quando dico giuristi cattivi cristiani, insomma, mi riferisco a queste figure, chiaramente, che sono tante, non sono poche, non sono poche. Ci metto ancora un pochettino. Approfitto della tua mancanza. E quindi siamo di fronte ad una teoria che veramente sconvolge quelle che erano le credenze giuridiche consolidate di allora, ma anche di adesso, scusate. Se voi andate a vedere molte della letteratura giuridica corrente, ma voi vedete la permanenza di situazioni ottocentesche, insomma il permanere di questo eticismo della forma giuridica, mai messa in discussione, se volete, questa forza che è sempre un elemento marginale poi nel diritto. La norma fondamentale non è la Costituzione. Questo purtroppo è stato un fraintendimento dei nostri costituzionalisti. Noi spesso pensiamo così perché i nostri costituzionalisti, a iniziare da Costantino Mortati, hanno portato a questa cosa. La norma fondamentale è ciò che dona la qualità giuridica alla Costituzione o all'atto di un primo costituente. Ed è... Però nell'interpretazione di Basso, lui infatti non parlava della Costituzione. No, ciò che dà... sì. Però il discorso, scusa se, sì, se interloquisco su questo, il discorso di Basso, per quanto lontano dall'interpretazione, sì, effettiva della norma fondamentale di Kelsen, è meno distante di quanto non sia quella, sì, di, perché lui ritiene che la norma fondamentale sia, e non perché fosse ispirato da lui, fosse l'articolo 3 capoverso, certo, cioè non la Costituzione, l'articolo 3 capoverso, cioè a cui tutte le altre articoli della Costituzione, sì, dovevano ricondurre, sì, in realtà l'articolo 1, 2 e 3, ma cioè i primi tre articoli comunque, sì, allora, però questo è sempre, in molte dottrine dell'epoca, nell'educazione dell'epoca, si vedeva nella Costituzione un doppio livello, dove c'era una Costituzione fatta da leggi costituzionali e quella è un livello che invece era quello delle norme sul mutamento costituzionale e sull'allocazione dei poteri dello Stato. Ecco, solo questa seconda parte era una supercostituzione che qualcuno chiamava costituzione materiale, non nel senso di Mortati, chiaramente. Probabilmente vuole dire questo, che la norma fondamentale nel senso di un super principio costituzionale che è metro e garanzia di tutto il resto. Con il paradosso, sì, che diceva sempre lui, se si applicasse per intero romperebbe la cosa. D'altra parte lo stesso Kelsen nel 25 dà modo di arrivare a questo fraintendimento, perché distingue una Costituzione in senso logico-giuridico, che sarebbe la norma fondamentale, da una Costituzione in senso giuridico-materiale, che sarebbe il documento costituzionale, che sarebbe il documento costituzionale in senso proprio. I principi, ecco, i principi. Guardate, i principi è tutto il neocostituzionalismo si basa sui principi. Questi principi a volte coincidono con i principi fondamentali delle costituzioni. Kelsen non dà valore giuridico ai principi. Non dà valore giuridico ai principi politici delle costituzioni già nel 25, dove dice chiaramente che quelle parti delle costituzioni i prologhi eccetera, che sono una declamazione di diritti fondamentali eccetera, sono in realtà un esercizio retorico. Un esercizio retorico perché? Perché non hanno in sé la possibilità di farsi valere, non essendo norme sanzionate. Non essendo il principio, non essendo una norma sanzionata, non è norma giuridica. Nel 1956 esce un famoso libro, Norma e principio, Grundsatz und Norm di Esser, che fa una presentazione di questa categoria sulla base del diritto giurisprudenziale. Kelsen fa un articolo che poi è ripreso nella teoria generale delle norme su questo e ribadisce: quando si parla di principi, guardate, si va a finire in un principio giusnaturalista, in scelte morali eccetera, però è tutto da dimostrare che abbiano un valore giuridico. Perché è tutto da dimostrare che abbiano un valore giuridico? Non perché siano di contenuto irrilevante, non nobile eccetera, ma perché è difficile immaginare una garanzia diretta. Il principio entra direttamente nella giurisdizione, adesso forse un po' di più, ma in quegli anni senz'altro no. Quelli che erano i principi di diritto, con tutta poi la problematicità di questa categoria, perché il principio rimanda a una morale. Ha detto benissimo Luigi, guardate, non è tutta la morale, è la morale liberal democratica e socialdemocratica che si esprime attraverso i principi. Però i valori sono cattivi compagni di strada, sono cattivi compagni di strada. Tutta questa teorizzazione nasce da una mancanza di fiducia rispetto al discorso dei valori, perché il discorso dei valori è stato presente anche alla base della Seconda Guerra Mondiale, secondo questi autori. La Seconda Guerra Mondiale è leggibile come lo scontro tra i valori occidentali e i valori della comunità di razza, di popolo, di sangue, eccetera, hitleriani. Nell'ultima lezione fatta a Berkeley, Kelsen lo ribadisce. Quindi i valori portano al conflitto, portano inesorabilmente al conflitto. La convivenza civile ha bisogno di mediazioni, ha bisogno di tolleranza, e quindi in certo qual modo deve funzionare un'istanza di neutralizzazione del valore. E questo, guardate, è antico e è attuale. È antico da un certo punto di vista, la Seconda Guerra Mondiale, il nazismo, è attuale, pensate alle società multiculturali, portatori di valori completamente diversi. Se noi ci fissiamo, diamo un'importanza eccessiva ai valori, per esempio chiamando le religioni nell'ambito della sfera pubblica a decidere sulla cosa, si può arrivare a un contrasto insanabile, perché poi manca tra convinzioni ultime una possibilità di mediazione, c'è solo il conflitto. Allora da questo punto di vista è meglio forse, e la civiltà giuridica può progredire maggiormente, se mette in atto dei meccanismi di neutralizzazione dei valori, di neutralizzazione dei valori, cioè assicurare un sistema di convivenza dove minimamente si faccia riferimento ai valori, a un numero minimo di valori, e poi si lasci libertà di manifestazione. Bene.